muro di omertà che c'è stato per un lungo periodo all'interno del corpo dei carabinieri, non di tutti, è dimostrata dal fatto che la verità è emersa dopo 10 anni. Allora, perché il corpo dei carabinieri in parte ha mostrato omertà, tant'è che ci sono state le scuse del comandante generale dell'arma. Ci sono state le scuse del comandante generale dell'arma. Ha capito o no? Il comandante generale dell'arma ha chiesto scusa. Hai capito o no? Hai capito o no? Il comandante generale dell'arma ha chiesto scusa. Hai capito o no? Scusa, ma stai parlando in tedesco? Parla! Parla! Il processo! Parla! La zanzara. Tutto il resto è gioia. No, non ho detto gioia. La zanzara! La zanzara! Sta iniziando! Sta iniziando! La zanzara! La zanzara! Sta iniziando! La zanzara! La zanzara! No! Luciani, non posso parlare ad alta voce, ma anche su un pullman che da Agadir mi porta a Marrakesh con sotto i canti, 3 ore di canti, si ascolta la zanzara. Siamo al top! E anche dal quartiere a luci rossi di Amsterdam, con un cannone in mano, si ascolta la zanzara. Siamo al top! Parenzo, comincio il nuovo anno mandandoti a fare in culo insieme a Meluzzi. Vaffanculo, non ti meriti altro, povero idiota. Allora ragazzi, questa sera in collegamento da Padova, uno accanto all'altro, cheek to cheek si potrebbe dire, quasi si baciano, quasi si slinguano, anche brain to brain, quasi si toccano con mano, sicuramente si toccheranno l'uccello prima o poi, sicuramente accadrà, no, sicuramente no, accadrà, a Padova, negli studi di Radio Caffè ci sono Alberto Gottardo e David Parenzo. Applausi. Buonasera amici cari. Buon anno. Buonasera. Vedo che la Befana si continua a festeggiare e nessuno tocchi la Befana. Salvini la toccatevi. Se la vogliono togliere. Vogliono toglierci la Befana. Non nessuno vuole togliere nessuna Befana. Basta. Ma chi ho messo 40 minuti da casa mia per arrivare qui, perché a Prato della Valle ci stavano bruciando la Befana. Nessuno, io voglio togliere la Befana, perché ci ho messo in una città meravigliosa come Padova 40 minuti a raggiungere questi studi senza navigatore. Perché non volevi spendere perché c'era la Befana dei dati del traffico. No, ma c'era la Befana. E allora quando Salvini dice vogliono togliere la Befana, No, nessuno vuole togliere la Befana. La Befana c'è, l'abbiamo vista, c'è, l'abbiamo abbracciata, la calza. Vogliono toglierci i nostri doni. Mario Giordano lo dirà martedì, mercoledì, non so quando cazzo vai in onda, domani, lì fuori domani, dal coro domani. Vogliono togliere la Befana. Se io sento uno solo, uno che non dice la toglierete, non la toglierete la Befana. Onore alla Befana. No, bisognerebbe toglierla, perché ci ho messo 40 minuti per arrivare qua. Sì, ma soprattutto la cosa grave è che tu oggi nel 2019, anzi 2020, gennaio 2020, non usi Google Maps, facendo così e mettendo Google Maps, una cosa incredibile. No, ragazzi, però dobbiamo essere seri, per mi piace interagire con le persone, essere... e chiedere. Sì, chiedevi a Gottardo come cazzo arrivare lì. Allora, no, alle persone che pensate, scusi, via della Viale dell'Astronomia. Chiamato 6 volte per venire qui a Allora, fermi tutti. Basta di farci i cazzi nostri. Devo fare un annuncio molto serio. Allora, il 28 di dicembre. No, nessun annuncio che riguarda la radio. Il 28 dicembre ricevo una telefonata dei carabinieri del paese vicino Bergamo, credo che si chiami Zenica, dove c'ha la tabaccheria Rosanna Sapori, la nostra amata tabaccaia che viene qui a combattere, eccetera. È sparita. È sparita dal 20 di dicembre. È sparita. Ho parlato oggi anche con i carabinieri. È sparita. Ha lasciato un biglietto. Non posso rivelare il contenuto di questo biglietto perché ci sono delle indagini in corso. Però lo voglio dire. No, non sto scherzando. Sto dicendo una cosa seria, molto seria. Perché voglio fare anche un appello a Rosanna, se sta ascoltando la Zanzara. Io do per scontato che sia sparita, che sia, come dire, che non siano successe cose brutte. Questo lo do, certo, quasi lo do per certo, lo do per certo. Sei in ascolto. Ma perché lo sai o perché? No, non lo so, lo speriamo, naturalmente. Spero che sia dal 20 dicembre sparita Rosanna Sapori, Zenica, la tabaccaia in provincia di Bergamo, che ogni tanto chiamo qui alla Zanzara facendo grandi battaglie con Parenzo, con Gottardo, ma questo non c'entra niente adesso. Ha lasciato un biglietto. Non è la prima volta che lo fa. Allora io parlo anche a nome, non dico a nome, cioè, però non è la prima volta che sparisce. Non è la prima volta che fa questi gesti. Però è sempre tornata, eccetera. Rosanna, se sei in ascolto, e so che potresti essere in ascolto, o qualcuno che magari con cui stai in questo momento, c'è tuo figlio che ti aspetta, c'è tuo figlio che è molto preoccupato, tuo figlio, tuo compagno, eccetera. Allora, se non vuoi metterti in contatto con loro, noi siamo qui 800 24 00 24. Non so cosa possa essere successo, non so cosa puoi avere nella testa in questo momento, non mi interessa. Siamo qui con te, ti aspettiamo. Fatti viva, torna a casa. Se non vuoi farti viva qui, che non è necessario naturalmente, ma la cosa più importante è tuo figlio, il tuo compagno, eccetera. Rosanna Sapori, mi raccomando, siamo qui. Lo so che ogni tanto uno si può far prendere dalla depressione, da pensieri brutti, eccetera. Siamo qui, cioè questo è anche il tuo posto, puoi fare quello che vuoi, puoi dire quello che ti pare, puoi parlare a ruota libera, devi sentirti libera, non ti sentire come in prigione, come se la vita fosse... Siamo qui, soprattutto c'è tuo figlio e il tuo compagno. L'ultimo messaggio che ci ha mandato proprio il giorno in cui poi non si è più fatta viva e i collegamenti si sono interrotti in quel momento, il 20 dicembre, l'ultimo messaggio era questo, era un messaggio contro la politica, molto forte, contro i politici, le promesse dei politici, eccetera. Questa è la mia tessera elettorale che sta bruciando, non gliene fregherà niente a nessuno, però credo che quello che hanno fatto al Parlamento sia una cosa vergognosa, schifosa, 5 Stelle in primis che erano d'accordo su questa fanfarata, quindi nessun taglio dei parlamentari, nessun risparmio di spesa, fanno i loro comodacci. E che vadano tutti a fanculo, buon anno, buona fede, speranza, e che cazzo di nomi c'hanno sti qua, bruciate nell'inferno, che diavolo vi porti. Vabbè, questa era Rosanna Sapori, come dire, no, questa era Rosanna Sapori al top della sua indignazione, però questo non c'entra adesso, questo ve l'ho mandato. Ma noi la vogliamo di nuovo così, ma sai che bello se chiamasse da noi per tornare a combattere come primo atto di questo meraviglioso 2020. Non c'è dubbio. Ripeto, Rosanna, fatti viva, soprattutto con tuo figlio, ha lasciato un biglietto al suo compagno a casa, dicendo me ne vado, eccetera, eccetera, ma non posso nemmeno dire, anche perché me lo sono dimenticato. Me l'hanno un po' letto velocemente, mi sono dimenticato il contenuto di questo biglietto. Un biglietto di addio, trasportato dall'empatia. 5 minuti una scomparsa, si è già dimenticato il testo. Bene. Ma no, benissimo, per carità. Adesso noi scherziamo. Ma è una cosa seria, ma non è importante il contenuto. È talmente seria che te ne sei dimenticato. Ma no, ma non è questo. Comunque, è una sindrome la tua. Se stai ascoltando, Torna a casa e chiama. Dai, almeno chiama per dire mi sto facendo i cazzi miei. Non mi rompete i coglioni, voglio stare da sola in una caverna, però sono viva e vegeta. Sgarbone, le elezioni le vince il centrodestra, stiamo parlando ovviamente dell'Emilia Romagna. come dice Maometto, cioè la premessa è questa: incontra un gruppo di musulmani in un albergo dove c'è una convention di Forza Italia per presentare le candidature. Sapete che Sgarbone è praticamente capolista in quasi in molte circoscrizioni in Emilia Romagna, capolista di Forza Italia. Pensa a Sutri che contenti sono di avere Sgarbone. Adesso perché devi rompere i coglioni? Capolista. Perché no, tu dici, sai, insomma, tu, ma è così. Le ultime due grandi battaglie di Sgarbone sono la schiuma da barba che gli hanno fregato a Verona e il fatto che pur di non stare a Sutri si candida in tutte le province dell'Emilia Romagna. Ma si potrà incazzare. Io, se fossi un cittadino di Sutri, dovrebbe essere dovrebbe essere onorato dal fatto di avere Sgarbi sindaco. Sei un sindaco assente. Ma che assente? Chiama Sgarbi. Ma che sindaco? Ma non rompere i coglioni, dai. Chiama Sgarbi. Ma lo chiamerò. Lui rianima Sutri. Il fatto che lui, anche se lui non ci va, il fatto che lui sia sindaco è un agitatore culturale. Ma già il fatto che sia lì, ma che c'entra? Voi siete fissati. Senti come lecca Parenzo. Diglielo in faccia. Certo, chiama Vittorio. Chiama Vittorio. Chiama il Ferrarese, visto che è turco. Vi dico chi siamo, tanto per capire la linea. Vedi? Sono gli islamici moderati. Federazione islamica del Veneto. Loro sono moderati rispetto a me, però. È un ente italiano, comunque. Col Corano, siamo a posto, adesso qui. Altro che Bonaccini, noi siamo, leggiamo il Corano. C'è il Corano in mano. Dice qui a pagina 18. Pagina 18, chiaramente. Le elezioni in Emilia Romagna. Saranno contenti gli islamici. Come vuole Maometto, le ma vincerà il centro-destra. Sembra il mago Telma. Come il mago Telma gli ha fatto prendere in mano una candela. Accendete questa candela. Facciamo il rituale per far vincere. Come si chiama la candidata dell'Emilia Romagna? Borgonzoni. La Borgonzoni. Facciamo tutti la B con la bocca. Cingetevi con un nastro rosso e toccatevi il coglione sinistro. Stai paragonando Sgarbi al divino Telma. Perché almeno il divino Telma non fa il sindaco in un paese dove non sei mai. Chiama Sgarbi. Chiama Sgarbi. Ma non è vero. Voglio parlare con Sgarbi. Sono felicissimo. Chiama Sgarbi. Aspetta. Chiama Sgarbi. Non glielo dirai in ma faccia. Ma tu ti rendi conto? A Sutri ci sono le panchine che si rompono. Ma chi le se ne frega di su? Che non sei mai stato a Sutri. Che non si trovano. E il sindaco dove cazzo è a fare la campagna elettorale in Emilia Romagna? Ma uno potrà indignarsi, percepirà anche un piccolo stipendio. Ma se non si indignano i cittadini di Sutri, percepirà un piccolo stipendio Sgarbi oppure no in quanto sindaco? Certo. E allora giustamente ha rianimato quella città, già questi, non dico nel particolare Sgarbi ma molto di più Salvini, per fare la campagna elettorale non vanno mai al Senato, non vanno mai alla Camera e prendono lo stesso lo stipendio. In più anche da sindaco lo stesso, la stessa cosa, ma che roba è? Ragazzi, tiriamo fuori i rosari, forza! La Zanzara. Zanzarosi, giornata difficile, Chiamate l'824-0024 o whatsappate il 393-7171-701. Scoprirete che potrebbe anche andare peggio. Il futuro della nostra Italia è nelle vostre mani. Io voglio che seguiate il Vangelo secondo Gentilini, che dice Dio, patria, famiglia, ordine, disciplina, rispetto delle leggi, prima gli altri e dopo gli altri. Non c'è spazio per nessuno, voi dovete farvi la vostra vita, perché voi siete gli unici in cui noi possiamo credere. Gli altri che vengono dagli altri stati non mi interessa una bea ostia, mi interessa la razza Piave che ha vinto e è andata in tutto il mondo. Ragazzi, buona fortuna, tanti auguri e ricordatevi di essere sempre dei vincenti, perché le scattine io le butto nel sile. Questa roba proprio di queste ore del signor Gentilini. Si sente invecchiato molto. No, si sente la dentiera. Ma no, ma che si sentono anche soprattutto i prosecchi della e vigilia. Anche la dentiera. Del arrivarci a quell'età ancora così in battaglia. La lucidità. Cioè, è ma voi sarete due decrepiti che col catetere, quello a 85 passa anni, battaglia come un pazzo. Ripete le stesse stronzate. Ho capito, ci sente poco, ma ancora battaglia come un pazzo. Voi sarete col catetere, con tutto rispetto per quelli che hanno il catetere. Con la dentiera. Con la dentiera dentro la pasta e fagioli. Ricordo per amore di verità che Oliviero Toscani, che definì i ragionamenti di Gentilini diarrea mentale, venne assolto perché il fatto non sussiste. Cioè c'entra? Dire che Gentilini produce una diarrea mentale non è un reato. Meno male. Cioè, meno male. Questo è storia, è giurisprudenza. Certo, ragazzi, non è che tutto fa sentenza. Allora, ripeto, naturalmente mi sono dimenticato nella cosa prima di Rosanna Sapori, la tabaccaia di Bergamo, che ovviamente non è che se vuole chiamare deve chiamare per dire sono viva, sono qui, può chiamare noi, può chiamare la famiglia ovviamente, noi per ultimi, ma in primis i carabinieri ovviamente, no? Via, telefonatina ai carabinieri e vai col tango. Allora, andiamo alla vicenda Iran, Stati Uniti, l'uccisione del signor Soleimani. Parenzo si è riscoperto, molto bellicista, insomma. Non ho mai cambiato opinione. Beh, ti fa piacere che il signor Trump abbia fatto fuori l'amico dei terroristi, il signor Soleimani. Un'operazione assolutamente pulita, come pulita? Sono morte 10 persone. Chirurgica. E gli altri 8 stronzi, perché li hanno abbassati? Gli altri 8 stronzi. Quello è uno stato canaglia. No, quello è Israele. Di solito dicono questo. Israele è una democrazia. Ah, sì. Ora, che però ogni tanto scoprire che Gottardo è un amico di uno stato che ha un signore che si chiama Khamenei e che si considera una ayatollah. A parte che fino all'altro giorno nessuno sapeva neanche la distinzione tra sciiti e sunniti. Forse non è il tuo caso. Quindi tu stai dicendo che basare uno stato su una religione è una puttanata? No. Come hanno fatto gli ebrei? Israele è uno teocratico. Stato teocratico. Come no? L'Iran è uno stato teocratico. State litigando tra di voi. Giù il microfono da Padova. Vi faccio sentire un signore invece, perché in Italia diverse persone credono che questo Soleimani, di cui tutti ovviamente tutti nemmeno sapevano che ruolo eccetera, non sapevano non lo sapevano, era nella classifica del Times insieme con Giorgia Meloni tra le altre Fusaro, signor Fusaro dice che questo Soleimani era un patriota, non un terrorista, un patriota. Sono d'accordo con Fusaro, certo. Qasem Soleimani non era un terrorista, era un patriota perché lottava per la sua terra e per il suo popolo. Egli era di più un partigiano, giacché lottava contro gli invasori e i terroristi. Con buona pace della continua e ripetuta narrazione di Trump, il pericoloso terrorista islamico Soleimani in realtà è stato l'artefice della sconfitta dell'ISIS in Siria. Io sto con l'Iran, zitti, io sto con l'Iran, con la resistenza iraniana contro Washington. Diego Fusaro, ma l'avesse detto un musulmano, lo avrebbero arrestato. Ma tu lo smai, non esagerare. Se un musulmano in Italia, sono molto serio, come tu prima con la Sabori, sono serio. Se un musulmano in Italia avesse detto, io sto con l'Iran, ma l'America assassina, lo avrebbero indagato. Ma se un musulmano avesse detto io sto dalla parte degli attori, il nostro amico lo dice, come si chiama? Lo avrebbero come minimo indagato. Ma guarda, lo dice un imbecille come Fusaro e ovviamente nessuno lo capisce. Se un islamico, legittimamente, secondo me, un islamico, legittimamente dal suo punto di vista, avesse detto, un islamico anche radicale, sto dalla parte dell'Iran contro l'America e l'imperialismo americano, maledetti americani, lo avrebbero indagato. Ma lo dice il nostro amico Piccardo, il nostro amico Piccardo lo dice sicuro. Se lo avesse detto in quei termini, lo avrebbero indagato. Quanti esempi abbiamo di musulmani che per parole come queste, magari secondo me anche giustamente, ma non è questo il tema, vengono indagati. Senti questo. Io non legittimo la resistenza dell'Iran all'imperialismo made in USA, la esalto. È sacrosanto che ogni popolo aggredito abbia il diritto di difendersi e di reagire. Aspettate, terroristi in tutto il mondo. Lunga vita all'Iran e che Allah lo protegga. Senti, che Allah lo protegga. Fusaro, impazzito. Allora, ripeto. Ottimo, Fusaro. Se un islamico avesse detto. No, allora facciamo un gioco di sé. Io sono lo Stato italiano, mi sta sui coglioni uno che è in Francia, lo faccio bombardare da un drone. Cosa cazzo succederebbe all'ONU? Cosa succederebbe all'ONU? Senti. Gli iraniani avevano assediato l'ambasciata a Baghdad negli Stati Uniti. Certo, l'Iran, da quel che sappiamo, non ha mai aggredito gli Stati Uniti, non ha mai cercato di invadere il territorio statunitense e semmai lui stesso da tempo dichiarato stato canaglia e nel mirino da parte degli Stati Uniti. Lunga vita all'Iran e che Allah lo protegga. Lunga vita all'Iran e che Allah lo protegga. Dice Fusaro, dice il filosofo della Zanzara. Allora ragazzi, io andrei a Patrizio da Firenze. Della vicenda di Lula Cebreal e della presunta censura ne parleremo più avanti. Io voglio dire solo una parola su questo. Che cazzo ci faceva se non doveva parlare di politica? Perché così ha detto il bravissimo Amadeus, che sarà il conduttore del festival. Ha detto non doveva parlare di politica, la politica la voglio fuori dal festival di Sanremo. Allora cosa ci faceva Lula Cebreal sul palco di Sanremo? Lei che parla di politica, è invitata nelle trasmissioni per parlare di politica, è una che si occupa di politica, fa il consigliere di Macron, non so per che cosa, ma insomma è una che fa politica tutto tondo, esprime idee politiche. Cosa ci avrebbe, che cosa ci faceva sul palco di Sanremo? Poi per me andassero tutti quanti, non mi interessa, ma cosa, cosa doveva fare su Sanremo? Non è una showgirl, non è una cantante, non è una donna di spettacolo. La questione non mi appassiona, Patrizio, non ho nessuna idea su questa censura nei confronti di Lula Cebreal sul palco di Sanremo. Dai, Patrizio, dimmi. Ciao ragazzi, buon anno. Dimmi. Volevo avere delle informazioni fresche su il caso Sara Sforza, che purtroppo è stata uccisa da questo magrebino che non mi risulta sia stato arrestato ancora. Sì, Sara Sforza, stai parlando di l'incidente di Avezzano. Sì, quella l'incidente ragazza di Avezzano, 23 anni, italiana, uccisa in un incidente stradale da un marocchino alla guida ubriaco, sì, che non è stato ancora arrestato, credo. Volevo sapere da Parenzo se lo era stato fatto e se non lo Parenzo non lo sa, non lo sa perché non si occupa di incidenti stradali, Parenzo, credo. Ah, no, esatto, bravo. Forse aggiornato più di me. E allora chiedo, no, guardi, non faccio né l'assicuratore della differenza. Non faccio l'assicuratore, quindi non mi occupo di... No, né no, sono, vabbè, l'avvocato Coppi... Ma differenza di trattamento con l'italiano che di Roma, ecco. Non ho idea. Quale differenza, scusi Patrizio da Firenze, quale differenza di trattamento? Perché ce n'è uno che ne ha ammazzati 7 in Trentino, okay, Alto Adige, giusto ieri, e non è agli arresti in carcere, no, neanche quello. No, e allora quale cazzo sarebbe la differenza? No. Quale sarebbe? Come sempre. È all'ospedale nel riparto, diciamo, per forza in servizio psichiatrico, allora, perché allora era sotto osservazione. Ma perché allora Patrizio, fermi un attimo, fermi un attimo. Allora, forse Patrizio vuole dire una cosa, non si sente molto bene la telefonata di Patrizio. Patrizio vuole dire una cosa, metti bene sto cazzo di telefono. Patrizio vuole dire che questo signore marocchino, tra l'altro, è praticamente uno che è stato espulso ed è anche in attesa di una decisione perché ha fatto appello, cioè una specie di clandestino che non doveva essere nemmeno in Italia, ed ha ammazzato una, insomma c'è una piccola differenza comunque. Quindi il magistrato è uno stronzo, fermala. Il magistrato che non l'ha fatto arrestare è uno stronzo, fermila, diciamo questo. Fermila. Promo 24. Appuntamento al GIC, giornate italiane del calcestruzzo, Italian Concrete Days, l'unica mostra italiana interamente dedicata a macchine, attrezzature, prodotti e tecnologie per l'industria del calcestruzzo, la demolizione, il ripristino e la riqualificazione delle strutture in cemento armato, con le sue aree tematiche Agretexpo, dedicata al trattamento e al riciclaggio degli inerti, Compavitexpo, dedicata alle pavimentazioni e ai massetti, e Idrexpo, riservata al taglio e alla demolizione del calcestruzzo. Alla terza edizione del GIC è anche previsto un ricco programma di convegni con relatori di fama internazionale. A Piacenza Expo dal 29 al 31 ottobre 2020. Per maggiori informazioni, gic-expo.it. La Zanzara. Se volete parlare al telefono con la Zanzara da Fallotto 0024 0024, oppure se volete mandare un sfaccimento i messaggi coppa WhatsApp 393 71 71 701. Ragazzi, volevo scopare una ragazza che mi piaceva qualche tempo fa, non mi veniva duro. Ho pensato a Feltri che omiglia Farenzo, raga, l'ho scopata quasi 4 ore di fila, ve lo giuro. Tanti auguri Tigre, tanti auguri Tigre. Giuseppe, New York City, Columbia University, un bel giro e ho piazzato una cacata straordinaria. Un saluto, adesso punto al Plaza. Ciao ciao. Perfetto, possiamo cominciare la... sempre sulle stesse cose, non vorrei tornare sempre su na non so che cosa, ma in quale città, ragazzi? In quale città? In quale città dei ragazzi sequestrano un'ambulanza e aggrediscono i medici? Voi dovete dirmi in quale città, voi che siete lì a Padova, e giustamente a Padova queste cose probabilmente non esistono, non può accadere che dei ragazzi sequestrano un'ambulanza. Non mi attaccate per antinapoletanità, perché non è così. Ci sono dei signori che continuamente mi attaccano a Napoli dicendo che ho dei pregiudizi e mi dicono anche delle cose peggiori, per carità, ma chi se ne frega. Non è questione di antinapoletanità, sono i fatti. Sono i fatti, la forza prorompente dei fatti, cari Gottardo, cari Parenzo, se sei ancora lì, se siete ancora lì in quei... state pomiciando, state limonando, non lo so, cioè, ma non però lo so. Queste fantasie che tu proietti su di noi, sì, esatto, dovrebbero preoccupare te e la tua bellissima fidanzata. Ma forse non hai capito già che io... quelli che hanno la fidanzata bellissima di solito gli piace poco la gnocca, perché hanno poca forza di immaginazione. Beh, di solito. Poi, in ogni caso, io mi preoccuperei del fatto che tu proietti su di noi una tua omosessualità latente. Ma io l'ho detto perché più quello volte. Che chiama il turco tutte le sere, quello che chiama il turco non sono certo io, tra le altre cose. Così ma tu non no. sarà San Dir. No, tu no, tu non no. abbiamo ancora chiamato, tra le altre cose. Sì, non so. Il turco, il turco ha fatto oggi una trollata nei confronti di una Gebreal strepitosa che dopo manda in onda, l'ha presa per il culo. Non chiamare il turco, in maniera che sta lavorando. Che palle questo turco ogni volta. Ma ancora, perché sei fissato col turco? Chissà, è una vera befana. Chissà se fa la tariffa doppia perché c'è il festivo. Chiamatemi sto turco avanti. Dice, prendi la calza, amico mio. Schinati e prendi la calza. C'è la sorpresa dentro. Mamma mia, che roba agghiacciante. Terribile. Uno. Stavolta non ti dà soddisfazione. No, aspetta che in azione, bravi, evidentemente bravi. In sarà action. L'ano, l'ano nuovo. Ma no, ma si sta facendo, no? Anzi no, lei sta inchiappettando qualcuno. Ma figurati. Niente, niente. È iniziato male l'anno. Anno nuovo. Anno nuovo, vita nuova. Allora ragazzi, in quale città, in quale città dei ragazzi sequestrano un'ambulanza e aggrediscono i medici? A Kabul, a Padova, probabilmente. A Padova, a Kabul, giustamente a Kabul? No, a Kabul. Potrà succedere a Padova. In Somalia, no. In Libia, in Libia potrebbe succedere. A Napoli, a Napoli. Ragazzi, non solo, c'è il presidente di non so che cosa, della Croce Rossa, di Paolo Monorchio, Croce Rossa di Napoli, dice peggio che negli scenari di guerra. Non lo dico io qui dalla Radio 24, dal Sole 24 Ore, da Confindustria, strumento di non so che cosa, antinapoletano. No, lo dice uno di là. È peggio che negli scenari di guerra. Non lo dico io, lo dite voi. Non mi rompete più i coglioni su questa cosa qua. Lo dite voi che c'è uno scenario da guerra, che sabotano le ambulanze, distruggono gli ospedali. È uno scenario tipo Baghdad da guerra, lo dite voi, non lo dico io, lo dite voi. Ma ragazzi, oggi una persona, diciamo, normale, se deve andare in un ospedale, purtroppo la gente là è costretta ad andarci perché è a Napoli, ma uno normale, se deve farsi operare, dove sceglie di andare? A Napoli? No, se uno ha un minimo di quattrini, prende il treno, il Frecciarossa, da Napoli va a Milano, va a Venezia, va a Torino e si va a fare operare. Nessuno va agli ospedali pubblici di Napoli. Nessuno. Adesso no, tutto il luogo ci vanno, purtroppo. No, luogo comunismo. No, di ma ci va un sacco di gente, purtroppo, perché è costretta, perché non ha i soldi per andare a Torino, a Napoli, a Milano. Piero, altrimenti... di eccellenza, io conosco un sacco certamente, di medici, certo, grandi che... primari. Sì, ma se uno può, se uno può, scappa. Dai, diciamo... Se uno, diciamo la verità. Non lì sono... è l'organizzazione, non i medici. Il problema è l'organizzazione. Ragazzi, ma uno vuole stare in uno scenario da guerra, come dicono loro stessi? Dai. Siamo in condizioni che non si verificano nemmeno nelle situazioni di guerra, in quanto le ambulanze sono protette da convenzioni internazionali. Ma lo dicono loro! Dove sono adesso i difensori di Napoli? I classici, non li vogliono, non li nomino nemmeno perché... Come direbbe qualcuno, come direbbe qualcuno di Di Maio, sono il nulla. Dunque non dico nemmeno nome e cognome, essendo no, il ma perché nulla. Vengono prese d'assalto le ambulanze? Ma in questo caso, c'è gente che non ha niente da perdere. In questo caso erano dei ragazzini che volevano far trasportare l'ambulanza uno che c'aveva la distorsione, non so che cosa, una roba, una per cui non era, al malleo, non era necessaria. Una puttanata. Codice verde. Senti questa roba, senti questo che dice, questo dalla Croce Rossa di Napoli, senti. Mentre facevo un soccorso a una persona ha gettato un pedalato molto, molto forte al di sotto dell'ambulanza. Oggi siamo qui con l'ambulanza fuori uso e gli operatori sono particolarmente esposti. Dai, su, cioè. L'esercito, qualcuno dice l'esercito. Ci vorrebbe l'esercito, ragazzi, l'esercito. Io dico, come sapete, il Mossad, altre cose. E che dice il sindaco di Napoli, il signor De Magistris? Che dice di questo scenario di guerra? Cosa ha da commentare? La flotta? La flotta per gli immigrati? Cosa ha da commentare? Cosa ha da dire? Nulla. Pazzesco, pazzesco, pazzesco. Va bene, dai, Giovanni da Pavia, vai, Giovanni. Giuseppe, ciao, buon anno a tutti, ciao. Ascolta, hai perfettamente ragione, io faccio il medico, faccio il medico a Pavia e spesso mi capita di operare della gente che arriva da giù e che denuncia proprio... Sì, ma tu hai la radio accesa, amico mio, hai la radio accesa. Abbasso, chiudi proprio, chiudi. La chiudo. Sì, no, io volevo intervenire sulla faccenda Trump Iran. Cioè, Trump è un pazzo furioso e chi lo difende è più pazzo di lui. Scusate, bene. ma come si fa a svegliarsi la mattina e a bombardare? Non è andata esattamente così. Non è che uno la si sveglia la mattina, ma ragazzi, questo qui è un quello pazzo, è un paese che qui ha servizi segreti, ma capi no, di Stato, persone allora, che si occupano della sicurezza nazionale. Non è lui che decide, ascolta, da solo. No, allora lo condanni alla comunità internazionale. Questo Soleimani non è mai stato condannato. Lui si è alzato la mattina e ci ha fatto scoprire che questo era un terrorista furioso. Ma lei non è dell'Aspen Institute, né tantomeno dell'ISPI o del quindi mi sembra evidente che lei fino all'altro ieri non conoscesse l'esistenza di questo personaggio. Nessuno gliene fa una colpa. Fai parlare Giovanni. Una cosa, qui c'è la follia umana all'ennesima potenza, perché uno che fa questa roba qui non prendendo in considerazione le conseguenze internazionali. Vabbè, ho capito, però la realtà è molto semplice, pare in Gottardo non sarà d'accordo, semplificando semplificando al massimo, bisogna essere contenti o no se un tizio che è considerato, come dire, uno dei padrini del terrorismo eccetera viene ammazzato? Io sono contento se uno di questi l'ISIS viene fatto combatteva l'ISIS fino all'altro giorno, questo qua. Vabbè, ma questo sconfitto, perché ormai l'Iran, la Siria è diventata una provincia iraniana. Vabbè. Claudio da Milano, dai Claudio, dimmi. Buonasera, Cusciani. No, non sento, Giorgio da Como, dai ragazzi, collegatevi meglio, dai. Via. Giorgio, dimmi. Giorgio Cusciani, stavo sentendo la cronaca, sì. Ho sentito che a Gerico di Foggia hanno fatto 3 estorsioni, a Gerusalemme di Napoli hanno saltato 5 croce rosse, sì. Dopodiché per ammazzarne uno in un'altra parte di Napoli, Soleimani, hanno ammazzato altre 7-8 persone. Ma chi è da quella vergine di Parenzo se l'ha finita di rompere i coglioni sul sud e il nord? È una differenza generalizzata, cioè il sud, Gerico, Gerusalemme, tutti quei posti, i civili continuano a ammazzare gente, lo vedi benissimo a Napoli. Gerico. queste le estorsioni a Palermo. Mi dica il signor Vergine Parenzo da Gerusalemme che cazzo c'ha da dire per migliorare questa società così civile. Io penso Napoli. Che lei abbia sbagliato le dosi del farmaco o del prosecco. No, del farmaco, lei deve prendere 40 mg, gli hanno detto. Lei invece ne ha presi troppo, 15, deve prendere 40 perché lei dice delle cose abbastanza sconnesse, se mi posso permettere. Con tutto l'oro che lei tiene in casa, si vada a curare a Napoli. Cosa vuoi dire, Giorgio? Io non ho capito che cosa vuoi dire esattamente. Ma neanche lui ha l'oro di Dongo a casa. Continua a dividere, a dire che succedono tutte da una parte, ma sono sempre in quel posto. Noi abbiamo un'Italia che è quella rappresentata da Parenzo, l'Italia di Napoli, e poi abbiamo uno stato austro-ungarico, russo, quello non che vuoi, un cazzo, caucasico, quello. Dove vivo io, ecco. Cioè, queste senta, cose ma quanto non oro ha Parenzo a casa? Perché io so dove abita, quanto oro avrà Parenzo a casa così? Ma Parenzo a casa due... per me deve avere i lingotti, quelli l'oro di Mussolini, quello di Dongo deve ma avere sai che casa, io quel ancora. Tè che mi avevi invitato l'altro giorno Parenzo a venire a bere a casa sua quasi lo vengo a bere. Vieni. Ma no, visto che c'è di quello lì che quello è un po' troppo Casa Monica. Quello è un po' Casa Monica. Cioè glieli ha fatti Catellani. Quello è Casa Monica. Di Roma, caro Parenzo, non è roba che succede. Io a non anno, ho capito, eh. Giorgio. Mi sembra di capire che tu pensi che l'Italia del Sud, cioè quello che sta succedendo. Ma non a... penso, ma il pensare è diverso. Il pensare, tu puoi pensare. Infatti, lei non pensa. Infatti, non pensa. Una parola non è pensare, questo è un dato di fatto. Cioè, è un dato di fatto. A Napoli assaltano la Croce Rossa per uno che si è distorto un ginocchio. Ma non lo fanno cioè, tutti questo... i giorni, eh? Beh, non no, lo fanno tutti giorni. Beh, dal 1 gennaio sono stati 5 giorni di fila. Bene, dal 1 gennaio a Milano hanno svaligiato degli appartamenti, dai. Quelli sì con dei lingotti non d'oro dentro, dai. E non è che a Milano ci sono i lanzichecchi in questo signor momento. Gottardo. La lucidità di questo ascoltatore Milano, però. Dal 1 gennaio si compra un po' di giornali, dopodiché se la usa come carta igienica la usi pure. Però qui siamo in una situazione che ci vorrebbe un Mossad, io sono d'accordo con Parenzo, un Mossad almeno mette a posto un po' di cose. A Milano ci vorrebbe il Mossad. Ma tu non sopporti Israele, Giorgio? Tu sei Giorgio no, Masocco, ma non è che non lo... Se tu dici non sopporto Israele, diventi anti-ebreo. Però il Mossad andò a Roma a fare l'intervento degli scusi, americani. Lei sta facendo un po' di confusione. Per cui noi abbiamo, se mai è anti-israeliano, non è. Scusi. Signore, scusi. Questa storia di Soleimani è allucinante. Ha commesso perché hanno un piccolo. Le armi tendenti ha commesso un errore. Lei ha commesso un errore. Dicono posso che segnalarle un errore che lei ha commesso? Che sono i 40 mg che doveva prendere di farmaco l'errore? Esatto. No, ma l'errore ascoltatore, è suo, perché l'MG lo deve prendere lei, si deve far curare. Si deve far curare in una clinica seria. Cioè in le una posso clinica dire con grandissimo affetto qual è il giusto e qual è... Non è che è giusto parlare con lei mi ricorda quel periodo in cui avevo le emorroidi. No, cioè, so, un periodo drammatico, che per cui lei è un emorroide. Lei è un emorroide. Un emorroide. Curabile, eh? Curabile, non diciamo con quale farmaco, perché altrimenti. Lei è un emorroide. È simpatica emorroide. È l'emorroide che dà fastidio, Parenzo. E questo è il dramma. L'emorroide che tiene in casa in gotti d'oro, credo. Dunque, Trump ha fatto male a far fuori quel tizio là. Ma certo che ha fatto, ma cosa c'entra? Ma poi per ammazzarne uno ogni volta ne ammazzano 8 o 10, cioè questa è l'intelligenza, no, di questa America che fa danni a tutto il mondo, ma non a casa sua. Avrà ammazzato quelli intorno a lui, che cioè non erano, cioè come dire, non erano gli stichi di macchine. Ma ha ammazzato quelli intorno al Mossad, che c'è a Roma, andò a Roma, ammazzò un po' di gente. Sì, ho capito, ma intorno a questo qua non c'erano degli angeli, non c'erano portatori di pace, insomma, intorno a questo sono i portatori di pace, però. Signora Cruciani, però io vedo che i portatori di pace continuano a sparare loro a casa ad altri. Adesso Trump ad esempio dice dovete pagarci se andiamo via. No, devi pagare tu l'affitto per le basi che hai messo in un paese non tuo. Cioè siamo alla lucina, stiamo stravolgendo la realtà come fa Parenzo giornalmente. Fermola. Fineco, la banca che semplifica la banca. Vi presenta... Fuori ci sono 0 gradi e tu vuoi il climatizzatore. E quando se no? Fino al 13 febbraio, da 1 euro, se acquistiamo un climatizzatore delle migliori marche, ci portiamo a casa in più l'asciugatrice Bosch. L'asciugatrice Bosch? La sognavo da un bel po'. Sì, e con il tasso zero pagheremo da giugno, quando fuori ci saranno 30 gradi. Tanetag 0%, 20 rate, salva approvazione della finanziaria. Uni euro, batte, forte, sempre. Allora, com'è là fuori? 10 gradi sotto zero e una terribile bufera. Neve e ghiaccio dappertutto. Tempo perfetto. Ok, GLC, questo è il nostro momento. Sfida l'inverno con la trazione integrale 4MATIC del nuovo GLC. Oggi hai 4.000 euro di ecoincentivo Mercedes-Benz su tutta la gamma GLC. Se permuti la tua auto da Euro 0 a Euro 5 e con MyDrive Pass scegli la soluzione finanziaria più adatta alle tue esigenze. Scopri di più su mercedesbenz.it. Ultima ora, il gatto tigro al Giro d'Italia. Ma no, basta fake news! Monge non racconta storie. Le nostre crocchette sono 100% made in Italy, con carne fresca per un'appetibilità straordinaria. Monge, il pet food che parla chiaro. La zanzara. Ho trovato quattro parole che riassumono la mia vita. La gente deve pagare. La gente deve pagare. E con il sangue. La gente deve pagare. La gente deve pagare. La gente deve pagare. La gente deve pagare con il sangue. La gente deve pagare, pagare. La gente deve pagare, pagare. La gente deve pagare, pagare. La gente deve pagare con il sangue. La gente deve pagare. La gente deve pagare, soffrire. La gente deve pagare. La gente deve pagare con il sangue. La gente deve pagare, pagare. La gente deve pagare, pagare. La gente deve pagare, pagare. La gente deve pagare con il sangue. Pena di morte no, però chiudere e lasciare morire. Pena di morte no, però soffrire. Un felice anno nuovo a tutti quanti. Un grande Gigamut Jupiter Slamut End. Vi voglio bene a tutti, ragazzi. E anche. E pure qualcuno che è contro di te, eh? E vabbè, quelli che contro di me mi vogliono bene, anche se sono contro. Però non ce ne fregano un cazzo che niente. Tanti auguri, vi voglio bene a tutti. Ciao dal professor Di Po. Auguri. Allora ragazzi, adesso vi faccio ascoltare qualcosa di incredibile. Dice la sua sulla vicenda di Soleimani, cosa molto seria naturalmente, di cui poi alla fine, siccome ci vogliamo divertire, non ci frega quasi un cazzo. Interessa solo Parenzo. Sì, interessa solo Parenzo, lo capisco, eccetera. Ma dovrebbe interessare anche te, visto che sei molto tirchio, la questione del petrolio. Ma cosa il tuo c'entra? SUV enorme. Ma cosa c'entra? C'entra anche quello, il controllo delle risorse, il tuo enorme SUV. Ma io sono fatalista, io sono fatalista. Tua tenuta umbra. Dal tuo possedimento umbro, vabbè, aumenta la benzina, aumenterà sti cazzi. Chi lo paga? Ma certo, io lo pago, ricco, io non te ne frega sono benestante, non ricco, te lo benestante. L'azienda, te lo pagherà l'azienda, sono 24 ore. Ma figuriamoci. Bene che si sappia che ti paga allora la macchina e la benzina. No. Quindi della vicenda iraniana non ti interessa. Della stabilità del Medio Oriente non ti interessa, perché sei come Feltri, come Feltri, vive a Bergamo. Ma sì, il fatto che va su anche il prezzo dello shampoo non lo tocca nemmeno questo. Posso dirti, a me di queste cose qui, di cui tutti quanti sono tutti il sapone, quanti lì, lo shampoo, la benzina, sono tutti quanti lì pensanti, pensosi, il futuro del medio, non me ne frega un cazzo. Lo posso dire sinceramente, dal profondo del mio cuore. Non me ne frega, ma lo dico con sincerità. Non lo dico facendo finta. Se dici ti preoccupa la roba dell'Iran, ma anche a me non me ne frega un cazzo. Mi diverte, basta. Mi diverte. Sono contento se uno schifoso personaggio, che sicuramente non era un santo, ma nessuno è santo, viene ammazzato. Ma non me ne frega nulla. Non me ne frega niente. Capito? Questo è il punto. Penso ad altre cose, non penso al signor Soleimani, agli equilibri del Medio Oriente. Non me ne frega niente, semplicemente non me ne frega nulla. Ha ragione Fetti da questo punto di vista. Assolutamente ha ragione. In generale, non c'è nessuna cosa che gli interessa. Però, a parte la figa. Però vi faccio sentire anche questa, scusami, ad esempio, sul caso Cebreal. No, leggo qui la dichiarazione di Rula Cebreal, Vittorio Feltri sta della sua parte, sì, no? E scrive: di Sanremo non me ne frega niente. Ma non si fa così. Cioè, lui anche sulla questione del, dice lui stesso: di Sanremo non me ne frega. Poi uno gli chiede: scusi, la vicenda iraniana non ne so nulla. Non c'è, non c'è una cosa, una cosa a parte i gatti. No, però di scusa, cui sappia. Non esiste. Allora, una ti faccio sentire come il sindaco di Sutri quando gli domandi di Sutri, per esempio. Sgarbi, l'abbiamo cercato in queste ore, aspetta, per esempio. Aspetta, adesso te lo chiamo. Quello Pirandella, giustamente. Intanto, il sindaco di Sutri. Ti faccio sentire Michela Morellato from United States. Oh, quella gran figlia della... gli auguri. Mi ha fatto gli auguri di San Silvestro. Senti, con dei video e delle foto bellissime. La Vicentina Morellato, quella che si mise insieme alla, ebbe una breve storia con il comandante della base militare lì di Vicenza. Della base più importante che hanno. Senti, gli Stati Uniti, senti che dice. Cosa ne pensate di questa storia del generale Soleimani che è stato, diciamo, giustiziato da un missile dal cielo? Non pensate anche voi che dovremmo vedere questa documentazione, no? Sì, cosa? Che cosa stava preparando contro le American Embassy, no? E vabbè, fin qui va bene, fin qui diciamo. Cosa ne pensate voi? Senti. Che poi un missile, per forza che viene dal cielo, un missile, cosa cazzo doveva essere? Una talpa? Senti. Perché a stamattina ero nel via di... Dove? Accontentare... sembra che c'ho i peli nell'ascella. Di accontentare mio marito. Sembra che c'ho i peli nell'ascella. Mio marito è un po' brainwash, diciamo. È un militare. Lui pensa che gli americani hanno sempre ragione. Io no. Perché ho avuto proprio un'esperienza personale con questi soldati, con questa army. E sono dei contapalle. Dei contapalle. Questa army sono le analisi di Michela Morellato. Parla come Dan Peterson, peraltro. Ma non è brutto, è stato lascia stare. Se tu stai sulle scatole a queste persone, ho chiaro, questo magari era veramente, un grande pezzo di merda. Probabilmente avrà ucciso probabilmente soldati americani in guerra, perché in guerra, allora, diciamo, chi è che ha ragione veramente in guerra? Cioè, nel senso, i musulmani, a questi paesi del Middle East pensano che hanno ragione loro, gli americani pensano che hanno ragione loro, gli europei sono sempre un po'... Non sanno un cazzo. Dipende come va la corrente. Giusto. E poi... Insomma, praticamente dalla mattina alla sera li stai sul cazzo, premono un bottone e ti fanno saltare in aria, ti mandano un missile dal cielo, rocket down your house, così. Ciao, goodbye. Qua l'ha Morellato come Gottardo. Sì, in realtà, come Giuseppe, Gottardo. In realtà l'ha Morellato è praticamente un Lutwak con le tette. E l'unica parte in cui parla con cognizione di causa è quando parla dello stare sul cazzo. Per il resto la vedo un fermi po' fermi tutti, fragile. Ecco, ti ho regalato Sgarbi. Che cazzo vuoi dire, Vittorio? Eccolo. Come andiamo? Come andiamo, il sindaco, Vittorio? Di Sutri. Oh, che palle. È Gottardo che mi fa due coglioni da 10 minuti col fatto che ti candidi in Emilia Romagna e non fai un cazzo per Sutri. Diglielo in faccia, Gottardo. Sutri. Diglielo. Solo la sua presenza a Sutri ha animato quella città. Ho capito, ma non c'è mai. Ma come cazzo fai a fare il sindaco? Ma come fai a fare il sindaco se non ci sei mai? È pieno di sindaci che ci sono, non fanno un cazzo. Ma infatti è così la storia. Allora sempre il benaltrismo. Vedi, parla già come Salvini. Per le mostre di Palazzo Bepico ho fatto due serie di mostre importantissime. L'ultima era di Sara Becco, che ovviamente l'ignorante non ha visto. Non ha visto. Ho portato Caffeina Village, che ha portato 12.000 persone durante la sale. Ho fatto uno dei borghi urbani d'Italia in 10 minuti. Per cui può non fare un cazzo per un anno, fare un anno di campagna elettorale, perché tanto l'anno scorso ho già fatto delle altre cose. È un benaltrismo allucinante questo. Ma almeno lo stipendio da sindaco lo dà indietro. Ma almeno lo stipendio da sindaco lo dà indietro. No, non lo prendo. Io non prendo lo stipendio, testa di cazzo. È diventato notizia, uno dei borghi più belli d'Italia. Ho aperto molto un bene che non hai mai visto, testa di cazzo. Molto bene. Bravo. Sì, e lei vada a Sutri a fare il sindaco ogni tanto. Da quanto è che non va a Sutri? Mai fatto un cazzo in vita tua. Mai fatto un cazzo, coglione. Ho aperto un museo. Bravo, questo è un giorno. Guardi che non sono Parenzo. Sì, sei un coglione totale. Una testa ha ragione, Sgarbi. Ha ragione. Ho fatto diventare sì, benissimo. Tutti però, uno dei benissimo. Più belli d'Italia. Perfetto. Ho fatto arrivare i soldi. Benissimo. E nell'ultimo mese. Poi, e nell'ultimo mese quanto c'è stato a Sutri? Vai a chiedere cosa. Negli ultimi 30 giorni. Che hanno chiamato la Sciarelli. Hanno chiamato la Sciarelli a chi l'ha visto, perché non la vedono mai a Sutri. Sono preoccupati i carabinieri. Vedono infatti molti sindaci che non fanno niente, stanno lì a scaldare certo. Il culo. Bravo, bravo, bravo. Un sindaco non deve stare in un posto, bravo. Deve fare delle benissimo. Cose per lo stesso posto. Ragionamento: se viene eletto in consiglio regionale, lo fa anche per l'Emilia Romagna? Oppure il consiglio no? Regionale, o almeno in consiglio cosa ancora. È un'elezione politica e non devo fare assolutamente nulla. Ho fatto l'assessore alla cultura in Sicilia per 3 mesi, ho fatto più che in 30 anni qualunque altro. E com'era finito quel consiglio comunale poi? Ma vai nei vai lì! Com'era finito quel consiglio comunale lì? Vai lì! Com'era finito in Sicilia? Che mi ricordavo delle vicende poi. In Sicilia ho fatto di tutto. Allora, la realtà è questa, la realtà. Allora, teste di cazzo, morto secco, è venuto anche Parenzo lì. La realtà è molto semplice. Bellissimo, era bellissimo. Perché si pagheranno per dire queste stronzate a Radio 24? Devono cacciare. Sì, ma l'eolico in Sicilia, l'eolico l'hanno fatto poi, visto che lei era sindaco oppure no? Ma non rompere i coglioni. Ma mandato no, lei ha combattuto e ha perso la battaglia perché non c'era mai. Se non ci fosse stato un po' di più, magari. L'hanno cominciato a fare nel 2000. Almeno Don Chisciotte le battaglie le faceva contro i mulini a vento. Lei i mulini a vento li vede da lontano e dice sono là, ogni tanto porto una mostra che c'entra? E va bene tu così. Hai detto una cazzata prima, lui si è candidato in Emilia Romagna. Non chiamarmi più. No, aspetta. Non chiamarmi più. Aspetta. Vittorio. Questo pezzo di merda. Hanno sciolto il comune. Ma dov'è Vittorio Sgarbi adesso? Non è a Sutri, neanche adesso. Le eoliche sono una speculazione mafiosa e tu mi devi rompere i coglioni. Sei un po' Ma io se fossi cittadino di Sutri. Sei un coglione totale. Bravo, una capra bravo. Comprata da questi imbecilli che mi fanno parlare. No, io sono uno che non ha paura di dirle. Io non ho paura di dirle che se fossi a Sutri chiamerei i carabinieri, perché è scomparso il sindaco. Non lo vedono da un mese. Bisogna fare una denuncia di scomparsa. Cittadini di ma Sutri, cosa c'entra? Per fare il sindaco, per fare il sindaco non c'è bisogno di essere fisicamente su una poltrona. Uno ha delle idee, le applica. Anche se va una volta al mese è uguale. Diglielo Vittorio, sì, basta cazzi, con sta cazzata. Uguale, no? Ma lo fai parlare apposta, ti chiedi un coglione lì, un minorato per sembrare intelligente tu, questo è un minorato mentale, no. È un rotto in culo, imbecille, incapace, è pagato da voi, io non sono pagato, lui è pagato. È andata così, no, non è pagato, non è pagato, no, è andata così. Per rompere i coglioni con delle stronzate, no. Vada a Sutri. Ma i cittadini di Sutri, la riconoscono, Sutri. La riconoscono quando Sutri, la vedono. Non hai un cazzo, non hai mai visto Palazzo Debbi, non hai mai visto il Vitreo, non hai mai visto un cazzo, che sei ignorante. Certo, non mi hanno fatto un mai sindaco. Ignorante, qualunquista di merda. Però, allora, idiota, ma scusi, tutti... non chiamatevi più. Però, aspetta. Non posso parlare con un isolato di aspetta, merda. Aspetta, Vittorio. Pure le pale, ma che c'entra adesso? Questo è successo un'altra. Stai zitto un attimo. Allora, è successo questo. All'inizio della trasmissione, caro Vittorio, abbiamo mandato degli audio tuoi sulla vicenda di Maometto, eccetera, eccetera. All'improvviso, signor Gottardo, se ne è uscito dicendo: ah, ma vuole fare adesso anche il capolista? Si è candidato in Emilia Romagna, si è candidato a fare l'assessore in Emilia Romagna. Libero. Io faccio quello che mi chiedono. Ma certo, se ma lo chiedo, lo ritengo giusto, non ho bisogno di nulla. Ma certo, sì, ma tra Parlamento e Sutri, tra il Parlamento e Sutri, per cui viene pagato il Parlamento, Sgarbi. Che mi dica chi è il sindaco di Nepi, quella faccia di merda. Come si chiama? Cosa fa e dove va? Come si chiama il sindaco di Viterbo? Dica qualcosa. Parli di quello che non sa, quella testa di cazzo. Imbecille. Ma quanti giorni c'è stato nel 2019 a Sutri? Ma che c'entra? Il Parlamento. Quanti... Ho fatto diventare Sutri. Uno dei borghi più belli d'Italia. Bene. Ho portato però, benissimo, Villa, glielo concedo, Sgarbi. Migliaia di euro per l'economia. Ho fatto glielo concedo. Concedo tutto. Vuoi? Ho fatto 27 concedo strade. Tutto. Aveva Parli provato tu, anche a portare Morgan e Morgan non è venuto. Pezzo di merda, coglione, fallito, nullo. Allora, senta Sgarbi, alla fine ha perfettamente ragione. Alla fine ha ragione. Ha ragione Vittorio. Uno può fare il sindaco benissimo. Senza essere là ogni giorno, cosa cazzo c'entra? E anche il parlamentare senza andare in Parlamento per lo stesso ragionamento. Ma che c'entra il Parlamento? Ma c'è anche quello volendo. Poi per carità, uno ci deve stare, lui ogni tanto ci sta a fare discorsi. Ogni tanto. Cioè uno può attaccare Vittorio su mille cose volendo discuterci, ma non sul fatto che abbia fatto delle cose concrete in un posto. Se uno ha un ruolo, tu dici che le fontanelle non aggiusta le fontanelle a Sutri. Certo, che cosa? Ma come cazzo fai a controllare com'è la piazza di Sutri se non ci stai mai? Ma come fai a controllare? Ma cosa devo controllare? Ma dove avete fatto questo ignorante? Dove ha studiato? Le idee di un sindaco sono le cose che si fanno. Non deve nello farle stesso lui. Liceo di Parenzo. Non deve farlo, devo fare io la differenziata. Devo imporla e l'ho imposta. C'è anche la differenziata, che vuol dire buttare te nei rifiuti dove devi stare, cioè nella merda dove meriti di stare, coglione. Benissimo. Però scusami, Vittorio, così, stai zitto un attimo, per cambiare argomento, perché sei dalla parte di Lula Gebrea? Non lo capisco io questa cosa di Lula Gebrea. Perché Lula Gebrea non avete capito, non solo io ho parlato con la direttrice di Rai 1 da fare d'accordo con me, ma siccome non è un problema politico, ma lei deve discutere la donna musulmana, mentre dice come trattano i musulmani le donne, dirà che in Italia la Gruber, la Santanché, la Tesei, sono donne libere. In Italia c'è la libertà che non c'è da loro, quindi volendo qualunque cosa dica sarà un elogio della donna occidentale. Quello che lei quella era la cosa che doveva dire a Sanremo, dici te. Esatto, no, quella di Rape che deve parlare della condizione delle donne nell'Islam, non deve parlare della condizione della donna da noi. E che va dice? A parlare di sua madre stuprata. Sì, e il direttore di Rai 1 che ti ha detto? Che ti ha detto il direttore di Rai 1? Ha detto che ha perfettamente ragione, e quello che riguarda lei sarebbe assolutamente giustificato che andasse. Quindi adesso la Repubblica ha mentito come mente Gottardo, ha fatto un articolo dicendo che c'è stato un veto che non c'è. Vittorio, qualcuno però ha parlato di veto. Lei stessa ha detto che c'è stata la censura, non l'hanno più chiamata. Non hanno ancora fatto il contratto, però di fatto, a quello che gli posso dire io, è molto probabile che la vedrai. Questa la vedrete, vorrà dire che avevo ragione. Ho capito, donne di Forza Italia, appoggiatela, perché fare l'attacco a una donna soltanto perché non è della tua parte politica è sbagliato. Dice cose giuste, le donne musulmane vivono condizioni di umiliazione. Ma questo d'accordo, però voglio dire, che cosa ci fa sul palco di Sanremo cosa ci fa Gottardo da te che non c'è un cazzo da dire? Vanità. Ricordo ai nostri ascoltatori, posso ricordare una cosa di Sgarbi? Ma vedi, lì si chiama Gottardo e lei benissimo. E sa Sgarbi cosa le ricordo? Di andare in Parlamento. Le ricordo di andare in Parlamento nell'anno scorso. Lei è stato assente al 75% delle votazioni, tre volte su quattro. Lei non era in Parlamento. Lei non era in Parlamento, Sgarbi. Non era in Parlamento. Tre volte su quattro. Tre volte su quattro. Però, ma cosa c'entra questo adesso? Ma così, ricordiamo che dove c'è il ministro degli almeno di in Parlamento. Ma Sgarbi, possiamo dire la verità: Sgarbi gode di una sorta di extraterritorialità. Questa è la mia concezione. Certo, assolutamente. Una volta al mese, da quella extraterritorialità arriva un bonifico nel conto corrente di Sgarbi, pagato anche dalle mie tasse. Posso non incazzarmi? Non vengo pagato come sindaco di Sutri, non vengo pagato no, come parlamentare. Sì, come parlamentare, sì, come parlamentare, sì. Con quello che vedo lei è stato assente a tre quarti delle votazioni, io le darei tre quarti in meno di stipendio. Posso dire questo? Posso dire che lei a un assente non pagherei lo stipendio? Posso dirlo? Posso legittimamente pensarlo o no? Ma puoi pensarlo, certo, lo puoi dire, ma è inutile. Tre votazioni su quattro ha saltato. Salvini, non devi pagare Berlusconi. Certo, assolutamente. Assolutamente. Ma comunque faccia di merda, paga te che non fai un cazzo, non hai un'idea, sei un fallito, non hai fatto niente, sei ospitato. Ma oltre agli insulti, Sgarbi, benissimo, tutti gli insulti, benissimo. Cosa hai fatto? Però perché lei non è andato tre volte su quattro, non è andato in Parlamento? Hai dato qualche prova? Perché non è andato in Parlamento, Sgarbi? Ma cosa c'è? Perché non è andato in Parlamento? Ma tutte le leggi volute dai 5 Stelle, come la prescrizione, come il reddito di cittadinanza, mi fanno poteva votare contro. poteva votare contro Sgarbi, sa? Mi sono astenuto, mi sono astenuto. No, no, lei non ha partecipato alle votazioni, non mi prenda per il culo. Qui io non sono Cruciani Parenzo, io le verifico le cose. Non ti posso prendere per il culo perché non c'è neanche il culo. Lei era assente alle votazioni, Sgarbi. Assente tre volte su quattro. Felice, felice di essere assente. Senti, senti le a stipendio pieno. Le sardine. Non chiamatemi più. Aspetta, guarda, Vittorio, Vittorio, aspetta un attimo. Ma sei abituato? Sei abituato? Populisti, ce li dicoli. Non certo, populisti. Tipo andare in Parlamento, andare a lavorare per cui è pagato. Quando mai ha lavorato? Che cazzo ha fatto questa testa? Un po' la faccio incazzare. Un po' la faccio incazzare. Ma sì, lo fa incazzare. Ma Vittorio lavora, ma non è che uno lavora solo se va in Parlamento. Sì, però il parlamentare vota. Il parlamentare vota. Spesso è in missione. In Parlamento si parla e si vota e si discute. Non si sta fuori a farsi i cazzi propri. Ma cosa c'entra? Quello è. Te l'ho detto che gode di extraterritorialità. Votazioni è frutto di una cultura dei 5 Stelle, no, la tua. La cultura della responsabilità, della responsabilità nei confronti degli elettori. Ma da non dire stronzate, va, non dire stronzate. Non capisco questa cosa della Gebreale. Secondo me è una presenza che non ha niente a che fare col festival. Va bene, lanciare ma appunto, sto dicendo, è vanità. È andato anche Benigni, cioè, non è che uno ci va. Ci va perché lo pagano, perché vuole un contratto e ci va, contrariamente a disoccupati come Gottardo che vengono gratis, ti fanno pagare. Però, siccome è una persona nostra, tu per cos'è che importa di una persona? La percezione che ne hanno ci gli va altri, perché è una bella ragazza, ci va perché è una bella ragazza. No, la conoscono, quindi una persona nostra, e ha un'idea giusta sul mondo musulmano. Mi sembra che sia, anche perché l'ha invitata Amadeus, cioè l'invito di quello che conduce è l'unica buona ragione per andarci, non è che gli sia proposta da no, ma io sono d'accordo, se uno ti invita poi non ci deve essere una censura, non ci deve essere qualcuno che ti dice un cazzo, però proponete di mandare Gottardo al suo posto, così ci sarà un grande risultato. Ciao Vittorio, ti abbraccio, ciao. Ciao, addio. Ma vaffanculo, dai, ciao. La provincia di Alessandria, vai Carla. Buonasera. Dimmi Carla, dimmi. Buonasera Carla, sentimi bene. Dimmi. Io sono nata il 6 gennaio sì. del 44. Beh, dunque, auguri. E stasera sono una befana. Sì. Volevo dirvi una cosa. Sì, 6 gennaio del 44, madre, dunque siamo ormai quanti anni ragazzi? Io faccio male i conti. 76. Allora? 76, no, 86. Oh, 76. Senti qua. Dimmi. Mia madre era la Repubblica di Salò. Sì, tua madre una era francese. Sì. Perché mio nonno era andato alla Prima Guerra Mondiale in Francia. Sì. Tornati, l'hanno buttati fuori. Vabbè, allora è venuta in Italia. Sì. Fammi finire. Sì, ti faccio finire. Repubblica di Salò. Sì. Mia madre ha conosciuto un tedesco. E si è sposata. Non si è neanche sposata. Sono nata io nel 44. Sì, allora? Bene. Fammi finire. Ti faccio finire, amica mia. Questo tedesco. Sì. Questo tedesco si è tolto la divisa e l'hanno preso a Dresden per andare a scaricare tutto quanto. Dunque? Orribile, dico questo. Io non sono questa qui non è Radio Salò, però scusi cara, non è Radio Salò questa qui. Se vuole fare Radio Salò, è un ventennio. Questo non è un Salò. Mia madre, no, io dico Salò. Questo. Conosceva tante persone in Italia. Sì, beh, questo. Perciò vi dico questo. Dimmi. Per tutto quello che questo. Sta succedendo. Sì. Grazie. Quale? Grazie. Ma sai che cosa? Cosa? A quelle persone. Cosa? Che dicono di essere massacrati da Hitler. Da tutto. Non ho capito. Loro hanno massacrato il mondo. Ah, tu stai dicendo tutto. Loro miliardi. Ah, tutto. E lo stanno facendo oggi. Ah, ho capito. È tutta colpa degli ebrei, Duca. La signora che è colpa degli ebrei. Ma se erede della Repubblica di Salò, caro Parenzo, dice che tutto quello che succede nel mondo è colpa degli ebrei. Sono del 44, io non sono nata fascista. Vabbè. Sono 76 anni. Gli ebrei hanno rovinato il mondo per andare a rubare. Allora riattacchi il defibrillatore. Riattacchi il defibrillatore. Gli ebrei comandano tutto con i loro miliardi. Riattacchi il defibrillatore al cervello e vada a cucinare una minestrina. Ma vaffanculo tu e Salò. Signora, peccato stroncarla così, signora, era simpatica, prometteva bene. Lei che ha abbassato. Avremmo potuto domandarle dell'oro di Dongo, per esempio. La signora. la vecchia mentecatta. Ma come da la vecchia nazista, dai. Non sembrava, non sembrava così. E i soldi è tutta colpa. Ma non sembrava così, nel tono della voce immediatamente mi sono intuito. Io ho il ormai, dopo 10 anni, ho sviluppato un olfatto, anzi un udito, per cui il coglione lo riconosco dal primo timbro della voce. Vecchia mentecatta di Salò. La zanzara. In tutto il mondo sta predominando il fascismo, sta facendo cazzo, che c'è esso? Non avevo mai visto il muso dispurgottato. Malato da Mantova, quanto prendi di reddito di cittadinanza? Cazzo, che c'è esso? Quanto costi alle casse degli italiani, malato da Mantova? Malato da Mantova. Cazzo, ma che brutto c'è esso? Ciao Crucio, sono dentro al Louvre e indovina cosa sto facendo? Sono nei bagni e sto cagando. Beh. Avanti tutte, siamo al top. Allora ragazzi, nuove imprese, nuove opinioni, diciamo, nuove intemerate, nuove follie, nuove frasi, nuove polemiche da parte del consigliere comunale di Trieste Fabio Tujak, ex pugile, ex Lega, ex Forza Nuova, ex tutto, ex pure Legione Straniera, ha provato pure ad ingaggiarsi nella Legion d'Étranger, ma sì, non l'hanno voluto, però pare non l'abbiano voluto, oppure non ha trovato l'indirizzo giusto in Francia, non lo so, signor Tujak, che questa volta, questo signor, questa volta se la prende con i gay, se la prende con i gay, è un po' una sua fissazione. Scrive: voi sareste veramente così omofobi, ironicamente, ça va sans dire, da non dare dei figli a due uomini innamorati che si sfondano il culo e litigano solo in mancanza di vasellina? Cioè, sostanzialmente dice, si sfondano il culo e litigano quando manca la vasellina. Questa è l'ultima di Tujak contro i gay. Che mondo di merda, se non credi che questo sia vero amore. Oltre al blocco su Facebook, presto sarai rinchiuso in un campo di concentramento per omofobi. Cioè, in sostanza dice che non è vero amore perché si sfondano il culo e litigano perché manca la vasellina. Questo pensa degli omosessuali il signor Tujak. Signor Tujak, volete sapere altre frasi chiave di Tujak? No. Voglio tornare al Medioevo dove si salutava romanamente e si viveva in pace se si era normali. Mussolini, l'unica colpa è stato troppo buono. I sodomiti non si possono più criticare. E poi quest'ultima frase: i gay si sfondano il culo. Il che è tecnicamente anche vero, no, Gottardo? Cioè, non si sfondano, dipende dalle dimensioni della percussione. Lo introducono in ogni caso. Io effettivamente. Non discuterei neanche le schifezze. No, vabbè, adesso che uno provi ribrezzo nei confronti di Tujak, però questo è stato eletto legittimamente. Come i cittadini di Sutri hanno eletto Sgarbi sindaco, così tecnicamente anche Tujak è stato votato, quindi è anche legittimato a dire le sue puttanate. Io spero che qualcuno si occupi però anche della sua sanità mentale, perché non sarà bene questo qua. Il problema è un altro. Tecnicamente lui lo dice in maniera dispregiativa, lo dice disprezzando, però tecnicamente è vero. Cioè, tecnicamente si sfondano al culo. Se vanno troppo in profondità con una frequenza che poi dà dei problemi al perineo e all'ampolla anale, allora si può parlare di sfondamento, altrimenti è introduzione. Sì, d'accordo, tecnicamente è introduzione, però alla dopo fine se ce l'hai come un estintore, logico che lo sfondi. Ma io non capito, che conversazione è? No, vabbè, ma la insomma, conversazione è molto perché bisogna dare un peso alle parole. Esatto, sfondare questo ha un significato. Sì, ma, credo che nel 90% Gottardo, dei casi questo non avvenga. Gottardo, perché altrimenti vedresti la gente che cammina come John Wayne. Invece io ho un sacco di amici omosessuali che camminano normalmente in linea retta. Non hanno problemi al bacino, non hanno problemi. Ma non voglio allora dare ragione, che non si ma non voglio dare ragione a tui. Io rifiuto una conversazione. Sì, tu la rifiuti, però la realtà è questa. Che tecnicamente ha ragione Tujak, cioè alla fine è uno sfondamento, mettila come la metti, è uno sfondamento, c'è poco da fare. No, sbagliato. Ma sì, sbagliato. Un allargamento, uno sfondamento è così. È una titillazione, come direbbe Ruggero dei Timidi. Ma si titilla col dito, ma si titilla col dito. Oppure con un ano introdotto, con un pene introdotto fino a un certo punto nell'ano. Mamma mia, mamma mia. Ripeto, lui lo dice in senso dispregiativo, cioè si sfondano il culo quei porci maledetti contro natura. Beh, e ancora. In senso dispregiativo non è che c'è un senso positivo di sfondare un ano. Mamma mia, possiamo chiudere questa conversazione ignominiosa, per favore? Chiudiamola con le parole stesse di Tujak, che a petto nudo sull'internet dice che viene perseguitato per la sua fede. Sono stato perseguitato per la mia fede come nessun altro da queste parti, ma insomma dovevano farle i prelati, ma ormai sono tutti sottomessi. Però in verità sono sempre stati gli uomini più forti a difendere la propria fede. Però purtroppo la nostra religione non la conosce più nessuno, e chi prova a ricordare cosa dice la nostra religione viene perseguitato, come è successo a me. Ho centinaia di commenti, di insulti, migliaia da tutti i neocomunisti, così che mi perseguitano perché credo ancora nella tradizione della nostra religione. Ho detto solo che Gesù era Dio, se non si sostiene questo non si può essere cristiani. Accogliamo migranti quando prima i nostri santi combattevano le crociate per difendere la cristianità dell'Europa. Le famiglie non sono più famiglie, sono tutte distrutte, quando prima dal Medioevo il fascismo si facevano 10 figli, era impensabile appunto ogni distruzione della famiglia, ogni denatalità, cioè ogni legge che è arrivata adesso dal 68, dall'aborto, al divorzio, era tutto impensabile. Perché accogliamo migranti islamici quando li abbiamo sempre respinti? Questo è una cosa assurda, che poco tempo fa portava la scomunica. Fino a poco tempo fa portava la scomunica. È fantastico che questo si occupi dei migranti, non è che si chiama Rossi o Gottardo o Parenzo o Cruciale, si chiama Tuia. Esatto. Adesso io non mi ricordo nel il Manzoni che abbia mai chiamato uno dei suoi personaggi Tuia. No. L'ha chiamato Tramaglino al massimo, Mondella, no? Tuia. Mi sa che è leggermente poco italiano. Enrico, molto bene. Enrico, dimmi Enrico. Pronto, buonasera, mi sentite bene? Beh, insomma sì, abbastanza, dimmi. Vabbè, grazie. Dunque, buon anno a tutti quanti. Vabbè, volevo non ce ne frega un cazzo del buon anno, dai, dimmi. Vabbè, vedi che persone educate. Volevo fare un appello a Rosanna Sapori di tornare a casa, di dare notizie. Mi senti ancora? Pronto? Sì, ti sento. Ah, io sono mezzo sordo, scusa. Tu sei allora, sordo, sordo e chiama la radio, incredibile sta cosa. Sei sordo e chiami la radio. Tu guarda, va bene. Per carità, va bene tutto. Perché sordi che ascoltano la radio. No, ma assolutamente allora, va benissimo. Però non è che bisogna anche interagire poi. Dimmi. Vabbè, sì, dunque, la Rosanna Sapori è stata ed è tuttora, secondo me, una grandissima giornalista. Io la seguo da adesso. Giornalista non è più, non lo fa più, eccetera. Però va bene. Era a Radio Padania. Vabbè, allora cosa vuoi dire, Enrico? Ma era già sordo. Ma lei era già sordo quando sentiva la Sapori? Scusi, signor Enrico da Torino. Comunque, ha iniziato ad avere delle acufene, ad avere delle perdite d'udito ascoltando Radio Padania, quindi. Può candidarsi e non si sa. Vede, mi sarei fatto delle domande. Vabbè, allora. È una buona idea. Dunque, la Rosanna Sapori era una giornalista bravissima ed è tuttora, secondo me, più brava di Salvini. Mm. Era sempre a fianco di Salvini a Radio Padania. Vabbè, anni fa, allora. Non ha avuto giustizia perché l'hanno cacciata con un calcio nel sedere. Perché aveva detto che la banca Credit Euro Nord, la cooperativa bancaria che gli aveva si era fregata i soldi dei. Allora io ero andato a protestare alla sede della Lega a Torino, era già in appoggio. Vabbè, non ho capito qual è. Non ho capito che cosa vuoi dire, Enrico. Al di là di questa ricostruzione. Che è stata cacciata perché a me un onorevole della Lega, che non posso dire chi è, per riservatezza, mi ha detto che l'hanno cacciata. Vabbè, perché però non ci interessa, del passato. Noi che cosa vuoi dire? Cioè, ma hai qualche il notizia? E anche il suo presente, non ho notizia, credevo ve lo fosse inventato. Ma che inventato? Sì, inventato. Internet, ho telefonato in tabaccheria, che ho trovato il numero con internet, il telefono, e che cosa come dire, suona vuoto. Voglio ma suona dirle, vuoto perché è chiusa magari la tabaccheria, l'epifania. Voglio dirle di tornare a casa in fretta e furia, o di dare notizie o così via, di non fare sciocchezze, ecco. E anche a voi dico, ma datele una mano a tornare magari a fare anche la giornalista. Ma guarda che noi l'abbiamo ospitata negli ultimi mesi più volte qui, per cui sì, di che parliamo? Ma come tabaccaia, e non ero d'accordo su quasi tutto quel che diceva. Però come giornalista è stata veramente ciao brava. Enrico, ciao, buona ciao, serata, ciao, grazie. You're going through the motions, destroying our emotion, and praying on devotion. It's just a game. Porro sulla Gebreal, vai, porro sulla Gebreal, vai. L'altra grande cosa di giornata: è nata una nuova eroina, Rula Gebreal. Rula Gebreal, dovete sapere, è una che a me mi attaccò in una maniera indecorosa. Tu, uomo bianco, cioè, è una di quelle che si mette a piagnucolare quando non sei d'accordo con lei. È una perfetta, come possiamo dire, rappresentante del libro di Bretton Ellis, di White, una di quelle che l'inclusività, l'autovittimizzazione, avete presente quella roba lì, insopportabile, una che non c'ha né arte né parte. E una che oggi intervistata Gad Lerner, ho dovuto rinunciare per andare a Sanremo, chissà che ha dovuto rinunciare, voglio dire, non rinuncia forse a un party dove non riconosce neanche gli scrittori, come ci raccontò qualcuno, non ha rinunciato assolutamente, probabilmente ha rinunciato, non so, sì, a un party, mi spiace per lei per aver fatto la serata inaugurale. Se non vi piace Rula Gebreal, cambiate canale, certo, la pagano i contribuenti, ma saremo portati talmente tanti soldi alla Rai che non mi sembra che sia un problema. I giornali in realtà sono caduti nella trappola, e l'eroina dell'inclusività ha la sua ribalta, che è quello che cercava. Beh, su questo Porro probabilmente ha ragione, cercava certamente la ribalta. Vittimismo così a profusione, a iosa, come no, certo, cioè, assolutamente sì. Ma ricordate questo scontro tra Porro e la Gebreal? Senti, si parlava della Brexit, dell'Inghilterra, eccetera. Senti. Ho sentito dire da dei fenomeni che l'Inghilterra ha cambiato posizione economica. Rula, io ti ascolto e ti apprezzo, ma ragazzi, ma non è che potete dire le cose, voi siete qua e siete i fenomeni voi. Non è assolutamente vero che l'Inghilterra ha perso posizioni economiche. Una cosa è il deprezzamento del pound. E quindi, per favore, io non so che giornale leggi, capisco che lavori per il giornale, ma non so che giornale leggi. Sono i dati della Banca Mondiale, non sono miei. Ora tu mi stai interrompendo. Facciamo finire Nicola Porro. Non mettermi il dito in faccia perché questa violenza. Non mettermi il dito in faccia perché questa si chiama violenza. Sono stato zitto. Mi sono sentito fare discorsi della Madonna. Mi avete raccontato che il mio giornale è abituato al monologo, non dialogo, capisco. Io dico soltanto una cosa banale: l'Inghilterra, cara Rula, non ha perso posizioni economiche. Nicola, non solo questo, intanto non deve arrabbiarti, diventare rosso quando poi parli di donne e i diritti della donna e poi un uomo bianco che urla addosso a una donna come me. Quindi ti prego, abbassa i toni. Non è che devi spingere. Allora, forse Rula, abbassa i toni. Se qualcuno non è d'accordo con te, c'è un'altra questione, Nicola. Incredibile, l'uomo bianco che parla una donna, l'uomo bianco, Rula Gebreal, ragazzi, per carità. Claudio da Milano, vai Claudio. Ciao Cruciani. Dimmi. Niente, volevo dirti che cioè, il tuo parlare continuamente male di Napoli, no? Ha incrementato il turismo, è stata la città che ha avuto più turismo nel periodo natalizio. Io non parlo male di Napoli, è Napoli che parla male di se stessa. È diversa la cosa. No, io sono andato sul top delle città più pericolose d'Italia. Sì, ma cosa è successo nei giorni scorsi? Cosa è successo nei giorni scorsi? Cosa è successo in un ospedale di Napoli? Ma cosa c'entra l'intralazzi della finanza? Ma mica stiamo... fanno delle cazzate, rispetto ah, a sono delle cazzate. Vagliela dire che a quelli che erano dentro quell'ambulanza. Vagliela dire a quelli che erano nell'ambulanza. Cosa mi ha fatto? Gli hanno costretto qualcuno a portare un ragazzo all'ospedale. Innanzitutto metti bene se le metti bene. Sì, a parte sì. Hanno fatto proprio questo, hanno dirottato un'ambulanza dicendo dove doveva andare. No, ma leggi il top delle città più pericolose, anche lì il padovano, no? Che anche a Padova sono spariti 150 milioni. Non so in quale ente poco tempo fa. Oltre questo voglio dire una cosa. Ma dove legge Topolino? Lei si informa su Topolino per la cronaca? I documenti, tutti documentati oggi. Te ne voglio dire un'altra. Tu godi, cioè la tua è una perversione, perché godi a parlare male dei napoletani. Io non godo, amico mio, hanno dirottato un'ambulanza e uno dice che è un clima da guerra, un tizio della Croce Rossa di Napoli, la Croce Rossa di Napoli, non Giuseppe Cruciani, non il professor Clemente di non so che cosa, dai. Ma io quello che ti quello col triplo io. Cognome là, Clemente di San Miniato, che tu continui, no? Poi cioè tutto quello che enfatizzi sempre con Napoli, ma io non cioè, enfatizzo niente, ma non enfatizzo niente, il capo della Croce Rossa di Napoli ha detto che siamo in un clima da guerra, che cazzo dici? Non dire stronzate, l'ha detto un napoletano, il capo della Croce Rossa di Napoli. Va bene, ma non ne fate di peggio qui a noi. Ma ne fate? Cosa vuol dire ne fate? Cosa vuol dire ne fate? Ma tu andresti a farti curare? Andresti a farti curare in un ospedale di Napoli? Io sicuramente sì, perché ma vai, auguri. Ma sicuramente, ciao, garantisco. Ciao. La zanzara. Una bottarella alla tabaccaia la darei volentieri. Mi fa ingrifare come un canguro. Parenzo, basta, stai zitto! Noi sappiamo tutti chi è Cruciani, no? Chi è? Cruciani è uno che, diciamo, sembra totalmente inadatto, sì, diciamo, fuori sicuro, luogo sicuro. In un'azienda di Confindustria. Giusto, tutto giusto. No. Dove opera? Dove c'ha la trasmissione lui? Su Radio 24. Sì. Che è della Confindustria. Allora. Quelle sono. Sì, quelle sono. Quelle sono armi nelle mani dei potentati economici, perciò si tengono uno così. Me lo posso tenere, uno che non è in linea, non è elegante, non è in doppio petto, ha anche un'immagine poco, diciamo, come si può dire, con questi capelli un po' unti, quest'aria, lui pare che dichiari, faccia professione di amore per il non lavarsi. Cioè, un personaggio così discutibile, no? Come può stare in un luogo la cui allure è l'allure della Confindustria? Com'è possibile? Allora tu ti spieghi che queste cose nel complesso fanno gioco a un sistema. Questa è la verità. Allora ci lamentiamo, non ci possiamo lamentare. Allora noi sappiamo che noi giochiamo partite ad armi dispari, sia sotto il profilo mediatico sia sotto il profilo finanziario. Il professor Clemente di San non so che cosa, questo fa il professore universitario. Almeno il professor questo lo è, Clemente, non come quello di Taranto. Clemente di San Giovanni, San Luca, San Almeno San questo Gioacchino. Non fa il pope come quell'altro, no? Su ragazzi, io faccio parte di un sistema. A parte che mi sa che lo querelo, Clemente di San Luca. Ti giuro, mi sa che lo querelo. No, non querele mai nessuno. Mi sa che lo querelo, mi sa che lo querelo. Hai ragione. Mi è venuta perché dice che sono parte di un sistema, sono manovrato dai poteri forti. No, però quello è giusto. Piano piano quello è giusto. Aveva detto che hai capelli sporchi. Che sei capelli giusto, tutto giusto. È vero. Non è sempre vero che hai capelli sporchi perché alcune volte si lava. No, no, ma ha detto tutta cosa giusta. Però ha commesso un errore. Ha detto che io sono lo strumento in mano dei poteri forti. E su questo mi sa che mi incazzo. Io fossi dei poteri forti, querelerei. Perché questo, di questo anche cioè fossi comunque appunto, ragazzi i la gente come paese, non, cioè. Quanto non capisce un cazzo la gente, la questo gente qua, deve pagare eppure questo qua fa il professore universitario, cioè tu capisci, questo fa il professore universitario, fa il professore universitario e dice l'unico che è stato squalificato per doping è Dio, Maradona. Cioè l'unico che è stato, cioè dicendo che c'è il grande complotto perché l'unico che è stato squalificato, cioè il tifo annebbia la mente, distrugge il cervello. Il tifo vissuto come lo vive questo Clemente di San Crisostomo, Clemente di San Giovanni, mi perdo sempre l'ultima parte. Clemente di San Giovanni o Crisostomo? No, Luca, Clemente di San Luca. L'unico che fu condannato per doping, che in realtà non era doping, è stato Dio. Maradona. Non era doping. Non nominare il nome di Dio in vano. È stato Dio perché lui prese, gli scoprirono un nanogrammo di cocaina che notoriamente per qualunque scienziato medico sa che un nanogrammo risalente al giovedì non è doping, no? Però è stato squalificato per doping. Vabbè. Cose del passato, io direi di andare a Ivan da Ravenna, vai Ivan. Poi chiamiamo Tujak, Poi chiamiamo il signor Tujak. No, io vado via con Tujak, non me la frega. Perché? No, è così simpatico. Non vuole parlare con Tujak, aveva diritto di non parlare con Tujak. Ma ho diritto a parlare. Hai diritto, Ivan, dimmi. Restituisco parte dello stipendio, ma non parlo con Tujak. Volevo parlare proprio di Tujak, nel senso che mi sembra assurdo che nel 2020 ci sia ancora la censura. Non si possa dire che un gay è un rotto in culo o ma che un ebreo censura, è volgarità, è insulto, ma non è censura, volgare, è non realtà. Esiste il diritto all'insulto. Quindi, non esiste volgare, vabbè, però allora è la realtà che in questo volgare, caso in questo caso in questo caso realtà. In questo caso non è un insulto, se uno dice uno lo piglia in culo non è un insulto oggettivamente, è un rotto in culo, è dispregiativo, lo prende nel culo, vabbè, prenderlo conto e sfondare, lui lo dice in maniera, io mi incaponisco su questo dettaglio, non so se gliel'ha sfondato, no, ma di sfondamento. Ma perché vuoi dire questa cosa tu? Perché vuoi dire? Il mio pene nel culo dell'altro è quello che fanno i riccioni, gay, in testa. Ma perché ti dà fastidio? Perché ti dà fastidio questa cosa qua? Spiegami. No, mi dà fastidio la censura nel 2020, ma che uno non possa esprimere la propria opinione. Ma non è un'opinione, è un insulto. Se si parla degli ebrei ci hanno rotto i coglioni. No. Calma. Sono stati uccisi, eccetera. Ma è su una che cosa? Di coglioni, cioè, ma oggi guarda Ivan, scusami, questo signore è una rottura di coglioni, però tu lo fai giustamente. Sì, è una rottura di coglioni. No, Ivan, scusami. Non mi pare che, scusami un attimo, Ivan, non mi pare che ci sia, come dire, in Italia, questa trasmissione è un esempio lampante, un problema di libertà di espressione su queste cose qua. Uno può chiamare e dire i gay sono, lo pigliano nel culo. Tacciato omofobo. Ma dipende, uno se dice che i gay sono contro natura, se uno dice che i gay sono contro natura, che i gay sono malati. Ma Cruciani, volevo chiederti una cosa, ma se io a questo qua, se volevo chiederti tecnicamente una cosa, dimmi. Voglio chiedere, no, vorrei che ascoltassi anche questo ascoltatore. Tecnicamente, come si chiama questo ascoltatore? Si chiama Ivan. Ivan. Voglio chiederti una cosa, chiedo a Cruciani e anche a Gottardo che è qua. Se io per caso dovessi incontrare Ivan per strada e tenendo le mani alzate, senza avvicinarmi troppo, gli sputassi in faccia, incorrerei in quale tipo di reato? Beh, non lo so, non credo così, che ci sia un reato. Per capire, non potrebbe. Se per caso io spacco la faccia. Però ecco, a parte questo, benissimo, questo lo vediamo. Quello, ma nel caso io lo incontrassi per strada, di Natale avevo un t-shirt con una coppia gay. Ma non stiamo parlando di questo, stiamo parlando di un'altra cosa. Tu è innaturale. Tu stai dicendo è innaturale la coppia gay. Questa è una cosa che mi ha sempre fatto divertire. No, lei Ivan, ha un pacemaker o un suo parente. Ma Ivan, ha un pacemaker, perché è innaturale anche quello. Ma sta dicendo un'altra cosa, Ivan. Avere un figlio è innaturale. Infatti non lo possono avere, lo adottano casomai. Non lo possono avere perché non lo possono avere. Anche Ivan è innaturale. No, ma neanche adottarlo, perché è una coppia che deve adottare un figlio, perché si crea un precedente in questo caso. Vabbè, ciao Ivan, ciao. Può essere solo fra due persone. Ciao. Chiama tu, Jack, vai. Pronto? Tu, Jack mio, che hai combinato ancora una volta? Ciao, chi siete? Ah, di nuovo la Zanzara. Voglio capire una cosa, caro Tujak, perché tu ce l'hai tanto con gli omosessuali? Non ho capito bene, cioè... Ma no, dove l'ho mai detto? Beh, la mia religione è terribilmente omofoba, la mia religione, ma io... In che senso è omofoba, scusa? I nostri, perché si credeva che poi per noi certe cose sono sataniche, certe cose sono cristiane. Cioè i gay sono, io i gay sono, non ho capito, hanno qualcosa a che fare con Satana? Diciamo che l'atto omosessuale viene condannato, viene considerato satanico. Cioè là incappettarsi non va bene per i cristiani, mi dispiace. Incappettarsi è una cosa satanica. Infatti provi a guardare, prova a leggere un po' qualche articolo. Infatti tutte le sette di comunque delle messe nere, così dire, i satanisti spingono sempre più per l'approvazione LGBT in tutto, cioè tutto i satanisti mondo, sono a favore dei gay, degli omosessuali. Sembra strano, però sembra basso medioevo effettivamente. Effettivamente il medioevo sarà stato sbagliato per voi, però è abitato l'apice della cristianità. Perché tu vuoi tornare al medioevo, mi sembra, no? Io sono cristiano. Che c'entra? Non è che se uno è cristiano vuole tornare per forza al medioevo. Se quello era l'apice della cristianità, quindi vuol dire che un cristiano dovrebbe ispirarsi al medioevo. Però Tu hai detto una cosa. Tu hai detto che due uomini innamorati che si sfondano il culo non può essere amore. A parte il fatto di sfondarsi il culo. Cioè, aspetta un attimo, se l'hai visto, però dove l'ho scritto? L'ho scritto sopra un articolo del TG.com che parlava di due uomini che si sono conosciuti in carcere, si sono sposati qua, e uno picchiava l'altro sulla violenza domestica. Ah, d'accordo, la violenza domestica anche tra uomo e donna. Infatti ho detto non ci sono differenze, siamo tutti uguali qua, viva i gay, siamo visto che anche gli omosessuali si mettono assieme e si picchiano. Hai visto? Quindi e allora? Dovrebbero essere contenti gli omosessuali. Boh, comunque a pensarci bene, io non me ne intendo, perché sa sono. Sono sposato, così con la vecchia maniera faccio l'amore come ci facevamo una volta. Però un po', c'è una piccola ossessione. Ho guardato un po' su YouTube. Effettivamente fanno l'amore in quel modo là. Le è piaciuto tu, Jack? Perché questa ossessione potrebbe anche celare una certa voglia di cazzo, come dire. Può essere che magari invecchiando, ma non, io vede che si infrocisce un po'. Mi piacerebbe magari anche farne ancora, sono proprio di quelle persone così. Però non esclude di essere un po' cripto gay lei, Tujak? Perché sono abbastanza felice così, però non capisco perché. Un attimo, io ho visto che sono su per i siti, sono perseguitato dai gay, sembra strano, ma però ho connotato che sono considerato per le persone più omofobe d'Italia, assieme a Salvini, ad Inolfi, la professoressa Silvana De Bari, però vabbè, qualcuno siamo cattolici, comunque difendiamo quello che dovrebbe difendere il cristianesimo, il cattolicesimo, a differenza del papa che diceva chi sono io per giudicare voi, giudicate papa, alla grande dire, parlate di sfondarsi nel culo, però la religione cattolica è questa delle regole, non è quella del papa. Che c'entra la vaselina? Allora se vuoi essere cristiano o se sei gay non puoi fare sesso, perché l'atto l'atto, l'atto omosessuale è satanico. E se mi dispiace, non l'ho detto io, questa è la religione, questa è la religione cristiana, non la religione, fatta io. Sì. Ma non è la religione. Stessa che bruciava le streghe. Non sei costretto a essere cristiano, questa è la nostra religione. Ma si stava meglio, ma si stava meglio durante il Medioevo. Sta bene Papa Francesco, sta bene tutti però scusami tu, Iac, non capisco perché litigano solo in mancanza di vasellina questi omosessuali che si sfondano. Beh, guarda, sai, io se litigo con mia moglie, non so, forse magari perché non faccio l'amore, cosa fai? Due uomini come fanno l'amore? Ho provato a guardare su YouPorn, effettivamente fanno l'amore in quel modo là. Ma io non ho capito perché tu... Io faccio l'amore nella vecchia maniera, infatti per adesso ho 4 figli, non so se ne arriveranno altri. Ma guarda che anche gli eterosessuali fanno sesso anale, non succede nulla. Per me non va bene, però mi dispiace. Per te non va bene. Per i cristiani, cioè, non va bene. Dio ogni sera, secondo lei, guarda dove Tujak infila l'uccello e se lo infila sul buco sbagliato. Lo so, sembra strano, per la nostra religione è molto grave. È molto grave. Quindi neanche il sesso orale è Tujak. Quindi neanche prenderlo in bocca. La Bibbia, ma sono felice così. Bene, benissimo. Allora neanche. Ma neanche prenderlo in bocca, allora Tujak. Fineco, la banca che semplifica la banca. Vi presento. Ciao, questa è la segreteria di Paolo. Al momento non è raggiungibile. Si sta rilassando con i sedili Advanced Comfort di SUV Citroen C5 Aircross. Ti preghiamo di non lasciare nessun messaggio. Grazie. Disconnettiti più spesso. SUV Citroen C5 Aircross. A gennaio tuo da 19.950 euro. Info su citroen.it. Citroen. Nel 2002 mi sono diplomato. Nel 2006 ho aperto un bar. Nel 2010 mi sono sposato. Nel 2011 è nata mia figlia. Nel 2015 sono stato arrestato per omicidio. Nel 2016 sono stato condannato a 30 anni. Nel 2018 sono stato assolto con formula piena. Troppo spesso consideriamo mostro un innocente. Il Riformista è l'unico giornale che combatte ogni giorno contro manette facili e giustizialismo. Il Riformista, il quotidiano uguale a nessuno. La Zanzara. Dove una volta c'era Radio Cuore, le grandi emozioni della musica italiana. A Milano si sentiva Radio Cuore, grandi emozioni della musica italiana, su 92 qua. Adesso vi mettete lì e dice: sentiamo che emozione la musica italiana. Si sente? Brutto bastardo! Tu sei un bastardo! A te nelle vene ti scorre il veleno, ti scorre! Oh Madonna! Chi caccia i soldi? Chi caccia i soldi? Siete delle merde, basta, fanno bene togliervi i soldi. Devono togliervi i soldi, parassiti del cazzo che non avete voglia di far niente. Vivete alle spalle del popolo a dire delle cazzate solo per il vostro interesse e basta, andate a cagare, va. Allora io accendo la mia radio preferita, l'unica radio che io posso sentire. Radio 24. Radio 24. Grandi! So come on. Tu pensa che il 30% del peso corporeo in Hawaiian sta tutto in da Pucciac? Hello. Mi consente innanzitutto rivolgere la mia solidarietà al personale medico infermieristico che viene colpito ancora in queste ore da atti di violenza, di squadrismo, di aggressioni. E mi consenta di invitare l'onorevole Salvini a fare semplicemente la persona seria, se gli riesce, fra un tweet e l'altro. Mi si dice che ha fatto una dichiarazione totalmente sgangherata, irresponsabile di fronte a questi atti di violenza. Each tire, running around, È una cosa davvero sconfortante. Continuiamo a passare le giornate a mandare tweet contro tweet sotto tweet. Abbiamo ormai esponenti politici autorevoli di questo paese che passano giornate intere a lanciare messaggi dalla mattina alla sera alla notte. È un quadro francamente deprimente. Sì, però signor De Luca dovrebbe rendersi conto che non è, sì, ma non è fisicamente Salvini che fa i tweet, cioè non è Salvini, c'è uno staff che fa Salvini dei sarà il corrente, quindi voglio dire, se qualcuno twitta a suo nome è come Trump, sono dei invece dei dittatori, dei twittatori. Sì, però posso dirti la verità, sono le twittature. Per me, allora, dato per il presupposto è che per me il governatore del mondo dovrebbe essere il capo dell'Italia assoluto, eletto quasi alla, cioè nemmeno eletto, nominato direttamente governatore d'Italia e per governare per decreto questo disgraziato paese. Questo io penso di De Luca. Beh, scusami, che regione governa costui? La Campania. La Campania. La Campania contiene anche e l'ospedale Napoli. Sì, certo, ma non c'è dubbio. Non è che sia andata benissimo. Adesso non è che vorrei campanizzare tutta l'Italia. Adesso non mi attaccare pure De Luca dopo avermi attaccato Sgarbi stasera. Va bene che la Lega ha fatto una svolta nazionalista. No, però, insomma, ma dai, De Luca è il governatore della Campania, ma con degli strumenti che purtroppo non sono degli strumenti dittatoriali, purtroppo. Beh, sono la sanità, dipende dalla regione. Sì, hai ragione. Non hai torto, però. E allora, non hai torto. Tutti si lamentano come se non avessero mai governato un capito, cane. Però, amico mio, e stai governando tu. Però, da degli anni anche De Luca si prenda le sue responsabilità. Sì, d'accordo. De Luca, però, ha messo a posto un po' di quelle cose. Per adesso, non andare evidentemente non tutte. No. Il suo M118 dipende dalla sanità situazione, che è regionale. Ma certo, okay? Però non è che a lui è responsabilità. Lui si attaccano se la gente, se i delinquenti a Napoli e si prendono la briga di attaccare le ambulanze e di sequestrare le ambulanze. La colpa non è di De Luca, dai. Sì, tu. È morta una ragazza per arresto cardiaco. L'ambulanza è arrivata un'ora dopo. Ieri dai. È successo. Alessandro quello sarà un problema Pistola. Anche sì, di De Luca. Certo, non c'è dubbio, assolutamente. Alessandro non da Pistola. No, Luca, non sì, politicamente, Alessandro. Politicamente sì. Giuseppe. Alessandro, dimmi. Allora, senti, io volevo spostare un attimo l'attenzione su un episodio che è successo a Imola sabato. Che è successo? Quello lì che ha investito un marocchino. Perché aveva rubato il cellulare al figlio. Sì, sì, perfetto. No, siccome lo metto in correlazione, io sono una guardia giurata che opera a Firenze e Pistoia. Ma quella è una follia di uno che è andato a investire un tizio che ha rubato un cellulare al figlio, una roba. Cos'è fuori la dal legittima mondo. Difesa dello smartphone? Adesso. No, ma questa è una follia. Sì, una follia. Che le cronache riportano altri informazioni, però. Cioè, comunque, che cosa riportano? Scusa, non ho capito. No, riportano che lui stava girando per Imola e l'ha visto, si voleva fermare e l'ha schiacciato nel muro, a parte quello. Beh, no? Ho capito, adesso, insomma, amico mio, uno non è che vai a caccia di uno che ha rubato il cellulare a tuo figlio. Adesso, questa e soprattutto non lo schiacci nel muro. Se è andata così. Soprattutto, scusami tanto, ma questo qui invece di andare a caccia dei cellulari non può farsi cazzi sua e non rompere i coglioni a minorenni. Ma su questo siamo tutti d'accordo, amico mio, però non è che se uno ti ruba il cellulare lo vai a cercare in tutta la città e lo schiacci con la macchina. Adesso, francamente, io sono per la legittima difesa. Imola perché abita a Imola e l'ha visto, non è che cercava. Vabbè, allora gli dai ragione, Al di là di questo, no, io non gli do ragione, però sto dicendo, sono stato testimone di un episodio in piazza stazione a Firenze, di una ragazza aggredita, e guarda caso sono sempre di una certa provenienza, capito? Per cui perché non ha sparato, lei che è guardia giurata, perché non ha sparato? Meno male che non ha sparato, magari. Che è guardia giurata? Dipende perché che lo tipo fa il vendicatore alla Charles Bronson, si prende una 44 Magnum e inizia a sparare a questi negri che rompono i coglioni. Ma lei pensa che la gente si sia molto distaccata da questo? No, perché modo non ha le palle, pensare. Perché lei ha le palle la solo al telefono, capisce? Di prepotenza, tiri di fuori le palle, spari guardia giurata. Ma sta tranquillo, io ho un figlio, per cui l'ho già detto l'altra volta. Invece di sparare solo cazzate in radio. Altra volta, sta tranquillo che se c'è qualcuno che vuole fare qualcosa, recidivo, duro ma giusto, allora invece volta. Di fare solo, vabbè, ciao, solo questo, ciao, questo ciao, giustizialismo ciao. Verbale spari. Allora ragazzi, abbiamo con noi una persona che aveva annunciato il suo addio, anzi da tempo aveva dato l'addio al porno. Causa depressione, causa depressione, Parenzo. Valentin Demy, Buonasera, ciao Valentin. Grandissima. Beh, buonasera. Ciao, ciao cara. Allora, buonasera signora. Valentin Demy, in arte Valentin Demy, ma in realtà lo pseudonimo di Marisa Parra, come tutti sappiamo, classe 63, dunque Marisa abbiamo Pardo? Parra. Ah, non capivo, Pardo, cioè, povera signora Pardo. Io fossi in Pardo ti querelei per diffamazione, perché hai detto Pardo, quindi ho detto in Pardo. Parra. Tu hai detto Pardo, quindi è gravissimo, gravissimo. Classe 63, dunque siamo praticamente a 56 anni fra poco, anzi 57. No, 57 fra poco. Tra la sua Valentin Demy non è una così una passaggio, cioè una che ha fatto Madame il porno Tussaud, Museo delle Cere. No, ma che va tu un Museo delle Cere? Ma Museo delle Cere a 57 Tussaud anni ancora si è delle grandi mie. Carino, c'ha ancora il culo duro, se vuoi venirla a toccare. Diglielo Valentin, diglielo senza senza paura, all'attacco, senza paura nei confronti di Parenzo, senza paura. Madame Tussaud, Madame Tussaud. Allora, nella sua filmografia, oltre ad un passaggio, ha recitato anche in Paprika con Tito Brass. Non è che è l'ultima delle pornostar. No, per carità, per carità. Allora, abbiamo Io Gilda, innanzitutto, Snack Bar Budapest, Intrigo d'amore, eccetera, eccetera. Poi, naturalmente, tutta la parentesi porno molto lunga, tra cui c'è anche Suor Ubalda, Scatti e Ricatti, Cara Maestra, La puttana dello spazio, eccetera, eccetera. Valentin, posso fare una domanda? Io sono un suo grande ammiratore. Io sono un grande ammiratore di Valentin. Maiale. No, ma assolutamente, mi sono formato tutta l'adolescenza. Tutta l'adolescenza me la sono formata su Valentin Demy. A Pippe. Qual era il film in cui lei salvava un aspirante suicida? Mi ricordo questa trama. Era La madre perfetta. La madre perfetta. Ah, La madre perfetta. Si parlava di incesti. Sì, bravo. Una storia memorabile. Allora, la notizia, ragazzi, però la notizia è questa: Valentin Demy, dopo dieci anni, torna su un set. È tornata su un set porno. Ma è giusto al Museo Egizio. E ho scelto Max Felicitas. Capito? Si è trombata sostanzialmente. Andiamo alla sostanza. Potrebbe essere suo nipote. Sì, esatto. Sì, come si chiama? Hai già girato questa scena? Certo, tesoro mio. Come si chiama? Ha un titolo? La zia di Pisa è una grande maiala. La zia di Pisa saresti tu, è una grande maiala. Lui sarebbe sostanzialmente tuo nipote. Dato mio nipote che viene a trovare la torre di Pisa. A Pisa, sì. Che non aveva mai visto. Praticamente io l'avevo visto da piccolo, piccino, per trovare questa zia essendo un po' maiala, lo circuisce. Lo circuisce se lo tromba, insomma, diciamo questa. La grande praticamente sì. Capito Parenzo, la grande trama è questa, insomma, un nipote che si tromba la zia, che non vede da un sacco di tempo. Imperdibile. Questa è la trama. Però devo dire la verità, allora, la questione è molto semplice. Qui c'è un incontro di generazioni, in realtà. C'è la nuova generazione, l'astro nascente del porno, così dice lui, naturalmente, e invece la vecchia scuola. L'Amerigo Vespucci. La vecchia scuola. Come è stata la trombata? Com'è stata la trombata? Dimmelo sinceramente, Valentino, non fare pubblicità, tanto non c'è bisogno. Com'è stata? Innanzitutto, buona. Certamente le scene che ho girato io erano molto più forti, nel senso, però, nel passato, perché le ultime scene, mamma mia, è una roba esagerata. Però adesso poi lui dà dei messaggi anche giusti, cioè per esempio che messaggio usa il preservativo. Ma usa il preservativo nella scena con te, l'avrà usato, ma mica in generale non usa. Sì. Avete usato il preservativo, una cosa non si usa mai nel mondo del porno. Invece abbiamo usato il preservativo, questo è importante. Bel messaggio. Sì, questo è importante. Lei, Valentin, ha ancora sensibilità dopo tanti anni di onorato servizio? Certo, oppure un po' tesoro mio. Lo sente ancora? Lo sento ancora, anche molto. Ho capito. No, perché pensavo, visto l'usura del tempo, dopo tanti chilometri, uno poi alla non fine. Non vuol dire. Ma che non ti ha fatto impressione, non può essere, cioè, sembra quasi tuo figlio. Quanti anni ha? Non mi ricordo, Max, quanti anni ha. Quasi... 27, tu 57, cioè siamo a livello... 30 anni di differenza, se può essere tuo figlio, non ti ha fatto un po' impressione? Oh, scusa, ma ci sono le attrici che hanno i tuoi boy, e io non posso avere una scena con ragazzi del... Ma no, ma per carità, assolutamente. Mi sembra che sei divertito molto anche lui. quindi. Ma ha avuto delle, come dire, difficoltà nella assolutamente pro? Cioè subito. Subito in tiro, come si dice. Subito. Praticamente sei ritornata. Come è stato dopo 10 anni? Cioè, le ultime trombate, tu con chi le fai? Col tuo compagno? Con chi le fai? Cioè, faccio con chi capita, quando mi va, insomma. Con chi ti è? Cioè, non sei una. No, non vai solo col tuo compagno, sei fidanzata? Che hai? Un marito? Io ho un marito da 40 anni. Però, ma abbiamo un rapporto molto aperto, diciamo, molto aperto. Molto aperto, le fate di tutti i colori, scambismo. Tu vai con chi no, te vai? No, scambismo no, si fa ognuno per conto, cioè io faccio le mie e lui fa le sue. Però siete ancora marito e moglie? Sì, lui vive ancora con famigliola, me. Che bella famigliola. Ma perché, scusa? Guardi, non c'è nessun giudizio. Ho detto semplicemente che bella famigliola, evviva. Scusa, invece di fare avere una famiglia di nascosto così. Ma per carità, invece di fare il notaio, magistrato, o il commercialista, l'architetto, il giornalista. Ma ha ragione lei, però scusami, invece di farle di nascosto come fanno tanti, noi invece siamo aperti. Allora, ma non ha torto. Senta, però, ma lei è zia, ha dei nipoti, Valentin Demy, nella io vita ho reale? Ho dei nipoti, 5. E come l'hanno presa questa notizia? Poi che la zia è effettivamente. No, io sono la nonna. È nonna di 5 nipoti. Ho capito. E come lo spiegherebbe a un suo nipote poi quando avrà l'età della ragione? Allora, mio nipote è più grande, ha già 20 anni, quindi lui sa già tutto. Cioè, quell'altro già ha 13, sa già tutto. Quell'altro è piccolo, quando cresceranno. Dunque, non c'è nessuna, non c'è nessun tipo di, diciamo, di così di problema. L'ho avuti forse al tempo quando facevo l'erotico. Quando nell'80 il nudo era molto già forte, capisci? Quindi facevo l'erotico, ho girato questi film erotici dove c'era finzione, tra l'altro ne ho girato uno anche con Rocco. Sì. Rocco è l'unica che non si è fatto, sono io. In che senso? Sì. Nel senso che non ci ho mai girato un porno. Ah, non hai mai girato un porno? Un erotico. Non hai mai girato un porno con Rocco? Questo no. È un rimpianto mai. Questo? Beh, sì, no. Ci vuole. No, vabbè, dai, è andata così, vuol dire, non è che devo girare per forza anche con lui. Rifare un porno dopo 10 anni, per carità, è sempre una trombata, perché poi comunque una scena. Come andare in bicicletta. Sì, no, per carità, ma cioè, tu dici non perdi mai la cosa, non perdi mai l'allenamento, dici, oppure sei rimasto. No, vabbè, poi anche questo si fa una scena un po' più leggera rispetto a te, ho detto, come giravo. Beh, leggera, sempre una trombata, che vuol dire? Fammi. Ho capito, le ultime doppia penetrazione, tutta una roba allucinante, se no non andava. Questa è stata quasi come fare l'amore. Quasi come fare l'amore, perché prima eri già nelle ultime scene, eri doppie penetrazioni. Beh, loro si volevano questo, nei film si voleva questo, roba molto forte. Sì. Beh, adesso forte, pure. Forte, eh? Anche troppo. Adesso pure. Anche adesso, vabbè, io adesso non ho più girato, quindi non parlo di. Ma vuoi continuare? Ma vuoi riprendere a fare? Io non ho capito se vuoi riprendere a fare il porno. Non lo so, no, non credo, non lo so. E perché hai fatto? Perché hai girato questa? Perché lui mi ha incuriosito, questo ragazzetto così simpatico, buffo anche un po', capito? Poi lui ha una bella testa, questo ragazzo. Mi è piaciuto proprio il suo modo di lavorare, quindi ho detto dai. Facciamo. Ma fatto questa proposta, poi grazie anche al mio impresario che si chiama Mattia Pagliarulo. Senti, è la stato cosa, lui a spingermi un po'. A spingerti a fare questa cosa qua. Così. Ma io non ho capito, rispetto agli altri attori che hai conosciuto, no? Il suo attrezzo com'è quello di Max? Lui se ne vanta, molto. È ben in forma. È ben in forma. Beh, se lo dici tu. Sì, te lo dico io che l'ho provato. Guarda. Va bene. Ciao cara. Ciao Valentina. Ascolta, che ciao, che mi saluti. Che? Come perché mi saluti così? Che ti devo dire? Mai detto tutto. Voglio che mi sei tornata. Sei tornata. Questa conversazione con la signora. Ciao. Nicola da Verona, vai Nicola, vai. Sì, salve a tutti. Dimmi. Allora io vorrei sapere, perché si stava ascoltando, come si permette Parenzo, che di solito è il moralista di questa radio, sì. Ok, come si permette a prendere per il culo una guardia giurata dicendogli spara, spara, spara, spara, spara. La guardia giurata è lì. No, era che Gottardo, vi però, era Gottardo. No, ero io. Scusa, questo fa il Rambo alla radio e poi ma non spara. Ma non è quello, non sta facendo il Rambo, però. Lui ha detto un concetto tutti in maniera sbagliata. Fenomeni però a parole, non puoi tutti dire, fenomeni. Non puoi dire, Gottardo, a questa persona spara, spara, spara prendendolo per il culo per un lavoro in cui comunque lui cerca di proteggere le persone. Sì, e non ci riesce, perché se ha assistito a un'aggressione e non ha fatto niente, vuol dire che non fa bene il suo lavoro, scusi un attimo. Ma adesso lui non ha detto che ha assistito a un'aggressione e non ha fatto niente. Come no? Semplicemente come no? L'ha raccontato. Sì, ha detto che non si può più vivere, che è tutto... È vero, però, perché allora loro hanno le mani legate, lo sappiamo tutti, che hanno le mani legate. Indipendentemente allora dalla intervenire? Nazionalità di chi ruba, hanno le mani legate. Se le va mani a sparare, legate. Sappiamo entrambi cosa succede. Se le rubano il ma portafoglio, tira fuori la pistola, gliela sventoli sotto il naso, no? Ho capito, questo cosa gli fai? Cosa gli fai? Che tanto sparare non puoi. E allora? Perché e allora? Se allora per primo, e allora perché è ti lamenti? Per il culo, sei il primo il che non interviene. Lui non facciano intervenire, ma non penso che questo non abbia i coglioni di intervenire. Semplicemente sì, non può. Però prenderlo per il culo dicendogli spara, non mi sembra chiaro. Vai a fare il Rambo e poi alla fine vai al vedo e non succede mai niente. Allora vuol dire che spari solo verbalmente, dai. Adriana da Roma, vai Adriana. Sì, senti, allora io volevo parlare un attimo del veganesimo, perché in questi giorni praticamente è accaduto appunto in Gran Bretagna che un giudice ha detto ad un signore che era stato licenziato proprio perché lui faceva parte di un gruppo benefico esatto, sì, e praticamente il veganesimo, i vegani non possono essere né offesi né comunque oltraggiati perché fanno parte di una vera e propria gruppo religioso che ormai ha ho letto anch'io questa cosa, una follia totale. Beh, in realtà sì, è quasi vero, ogni tanto sembrano appartenere a una setta, però sì, adesso però dichiararla religione, dunque l'offesa, esatto, è come il vilipendio nella religione, mi sembra, esatto, una follia giudiziaria. Ciao Adriana, ciao. Ciao. Sì, ti accontento Parenzo, ti accontento. Ragazzi, per questa sera è così. Italiani! Voi ci dovete far sbellicare, che noi lavoriamo di brutto fino alle 7 e mezza, so, alle 8. Lei ha ragione, lo dica a voce alta. Chi sente la zanzara vuole sbellicarsi. Quando sono al castello di Carisio voglio ridere.